Salutiamo il posto d'attacco con Sandrago in diretta. Vai, in siamo diretta. Particolarmente appropriato questo. Siete pronti? Prendete anche voi un cicchetto. In diretta, io non bevo da 8 ore. 8 ciao, ore. Chiamo Giulio. Ciao, amico. No, beh, forse un po' di più. Sono siamo in diretta col 27esimo. Non hai bevuto a birra. 27esimo, ho scritto giusto? Avevo scritto giusto, 27? Era una cifra del cielo. Era una cifra di numeri. Giuro, è la prima cosa che beviamo di superalcolico. 27esimo episodio. Mezzo. Ma lei mi dirà la maledizione di Katta. Basta. Dove siamo, Tycoons & Dragons? E ci potete seguire sui canali social di Tycoons & Dragons e... Finalmente, no, ancora il podcast non c'è veramente. Ma ci sarà. Ma ci sarà, perché... sporchiamo un po' di robe. Faccio così? Sì, questa merda invece... Se fa la goccia, la condensa. Certo, bravo. Così. Però a casa degli altri ci guardi, a casa Ciao Ambra, salutiamo. Salutiamo Ambra, esatto, che con noi oggi ci presenterà. Guardaci fare il riassunto. E c'è l'interrogazione. Tieni, giù. Mi giustifico. Chi è Garrosh? Chi è Garrosh? Chi è Garrosh? Chi è che dà il nome? Dai, Garrosh, che nome è Garrosh? Fine. Non sappiamo neanche noi, era sei il Garrosh. Salutiamola, sta andando via. Madonna, di fredde congelate. Sta cazzo e ci cioè, intanto, salute. Salute. Ah, al 27esimo episodio. Ah, ah, ma altri 27. E quanti altri livelli? 7. Perfettamente. Esattamente cosa? Esattamente pochi. Vabbè, forse con pochi, come piace a me. Vabbè, come regalo di Natale, dai, glielo puoi fare di livellare. Non diglielo che poi lo fa sul serio. Ma io devo ho anche una sigla da parte tua, no? Sì, me la sono mandata, quindi se tu guardi la chat di cosa? Di Messenger. C'è il link. Devi aspettare la sigla, non devo puoi andare via così. Certo. Ma allora. Ma devo fare anche uno stacchetto? No. Beh, non è no, molto ballabile. Cazzo, non c'ho un cazzo. Beh, lo dici tu che non è ballabile. Hai visto cos'è? Sì. Si può sempre ballare, credimi, dipende solo dal livello alcolico. Ah, sì. Sei collegato al Tesh, io? Avevo il Bluetooth, potrebbe essere. Magari di piano. Non hai detto sì. Cazzi ti ha risposto. Cosa mi ha risposto? Le Arci non c'è. Con me, Andrea Giacomo Vecchi da Bologna, abbiamo Stefano Gamberoni, Giulio Bosi, Enrico Catabriga e... Per sbaglio. Per errore. Ambra Masotti. Ma salutiamo a casa Francesco Arcidiaco, Edoardo Saladini, Luca Lazzarini. È inutile che rischi. E Jacopo Romano. È il mio. Stasera è un insight. Mio. Insight mio. Un flashback. Insight mio, non male. Olè. Ascoltare musica a un volume troppo alto per un periodo di tempo prolungato potrebbe dar fastidio, come ascoltare Sceo. No, non esageriamo. Pesante. Ah, però. Bella sta canzone. Magari si metti là. Ah beh, ci stiamo guardando. Prego. Non devi parlare così, no. Vai, a ballare. Lo farei anch'io. Forza. Dai, Sceo, fai l'assunto. No, cioè, hai iniziato tu, poi l'ho fatto io. Mi ricordo solo che non siamo saliti di livello. Come? Tocca a me. L'altra volta l'ho fatto prima io, poi hai concluso te, tocca a me. Ti hai detto due parole, poi mi siete stancati. L'ultima volta. Vabbè, abbiamo sconfitto. Datemi l'incipit, che non mi ricordo. L'angelo. Ah, abbiamo combattuto e sconfitto il. No, il. L'abate. Beh, pazzo. Ma lei è pazzo. Folle. Lei è un folle, abate. E lui se l'è presa. Che perché è un, come solo un vero folle. Se l'è presa. Infatti. E noi abbiamo dovuto ammazzare. Lei abate è un folle col suo piano folle, seguendo il suo folle dio, il suo dio folle. E mentre io gli giuravo vendetta, dicevo, dopo la mia morte morirai, lui mi ammazzava e poi effettivamente moriva. Ma io sono ancora. Io l'ho preso in lotta, l'ho tenuto in lotta tutto completamente, poi gli ho dato il colpo di grazia. Poi abbiamo dato fuoco a tutti i locali dove abbiamo. Ah no, è vero! Dobbiamo ancora farlo. No, in pratica l'abbiamo sconfitto e lui è scomparso, sì, dissolvendosi. Era un angelo. Ma sono partite le campane. No, e cioè, beh, però più figo. No, perché prima di morire lui ha lanciato un grido. Perché dove erano i curdi quando cadde la Westfalda? È vero. Questo è. No, ha lanciato un grido prima di morire che ha, è come se avesse chiamato a raccolta tutte le bestie presenti. Ah, che lo sto facendo io, mannaggia voi. I Bellevue. Anche noi abbiamo sbarrato la porta. E i golem di carne sono stati attirati verso di noi, abbiamo sbarrato la porta. Abbiamo sbarrato la porta. Arce. Ah, ma cazzo, ma Arce è fondamentale, sta. Ma in realtà no, veramente finiva solo la sua cosa. Sì, ma una volta che adesso lui muore ci dovrebbe curare. È un gorilla gigante. Io sì, perdo i punti da gorilla, ma poi io niente. Ora che muore. Va bene, intanto è andato. Lui salutiamo Ambra. Lui è ancora 144 punti ferita. Ciao ragazzi, grazie. Certo, Vecino, grazie. Non ciao, Ambra. Comunque, per finire il. Anzi, è meglio perché Arce non può essere attaccato, non può perdere concentrazione. Arce deve mantenere la concentrazione sul gorilla, sul stesso gorilla. Vabbè. Ma non la può perdere, non c'è, non può essere attaccato. Invece di parlare. No, La gente vuol sentir parlare me. Hai ragione. Una brutta notizia, non ci guarderà da casa. È un problema, abbiamo un spettatore in meno sulla diretta. Sta guardando Giulio Bosi, l'altro non ci serve. Allora. Pochi ma buoni insight. Basta questo insight. Ma perché ridevi prima? Vabbè, devo anche spiegare. Non ho colto. Non capiresti. No, vabbè, in realtà potresti capire più. Non a pieno, non a solo intera in pienezza, però un po' potresti tra capire. Tra l'altro questi li dovrà raccogliere qualcuno. Già, abbiamo tutti pensato alla stessa persona. Comunque, vabbè, beh, chi può fare un bonifico più comodo di chi lavora in banca? Io lo faccio, non è un problema. Sì. Magari possiamo metterci d'accordo su quello che spende di meno nel bonifico. Non penso di essere dentro quel messaggio. Io spendo sicuramente di meno. Non credo di essere dentro quel messaggio. Come non è dentro? Ah, beh, sì, perché sei un postino. Esatto. Perché non c'è un postino di merda? Come non c'è? Che forse non è il messaggio. Sì. Ultimamente non sono stato incluso in nessuna chat. In effetti. Ma non va benissimo così, non c'è problema. Beh, effettivamente penso che sia solo una dimenticanza. Dicono tutti così. In realtà. È un po' imbarazzante. Ma si è dimenticato di scriverlo, dai. Ma tu sei. No, perché l'ha scritto su Thunder. È stato invitato, però. Darci. Sì. Ah sì, è vero, ho scritto esatto. È scritto su Thunder. Perché nella. Quindi chi devo rimuovere? Tiri su. No, è Arci. No, è che in teoria. Vabbè, aggiungo che ha fatto una charpe di regalo che sua cugina sta mettendo insieme. Magari però non ascolterà mai la diretta, però. Vabbè, ci sta sua cugina, eppure, e questa è la sua cugina. No, è la sorella, è Rossi. Sì, ma questa credo che gliela abbia. La sorella, cosa? Beh, sorella, cugina. Ah, scusa, quello di sorella. Zia. Zia. L'ultimo gruppo, credo che questa sia la lista scritta da Arci. Forse perché Kata non ha scritto nulla in Thunderwave. Tu hai scritto che c'era? Non mi ricordo. Però sì, io mi sono segnato quel giorno come festa di Arci. Non credo che tu sia un dietista. Potrei effettivamente essermi scordato di dare conferma della presenza. Vabbè, io ti aggiungo. Vabbè, comunque devi dare 7 ore e mezza. Ciao Arci. Ciao. Sarà l'unica diretta che mai ascolterà nella vita. No, l'unico pezzo di diretta. L'unico pezzo, esatto. Comunque, tornando a noi, abbiamo sconfitto l'abate che è sparito, ma prima di morire ha chiamato a raccolta tutte queste bestie. Abbiamo sbarrato la porta con un incantesimo che dovrà tenere sotto concentrazione. Arci mi ha trasformato in un gorilla enorme. Quindi io sono rimasto al piano terra. Al di fuori le statistiche del gorilla. E bravo. E uno a uno sto picchiando. Aspetta che prima finisco il risultato. Sto picchiando uno a uno tutti i vari belli. Sì, perché ha sfondato il golem di pietra. Di carne, scusa. Esatto. Sfondato la porta cercando di carne. Mentre sto cercando. Di pelle, di pollo. Fatta da Arci. Sì, perché Katta non ha scritto nulla nel messaggio. Intanto sto cercando di tenere a bada il golem di carne. Perché i pugni di un gorilla non gli fanno nulla. Non solo quelli. Vabbè, insomma, era un'altra cosa dal mio punto di vista. Nel frattempo gli altri sono al piano di sopra che sparano ai nemici, che però li sparavamo prima, sono arrivati addosso. Vabbè, e ormai gli sono arrivati addosso. In tutto questo Arci credo che sia dentro una stanza semi nascosta. Arci dovrebbe essere dietro di loro. Sì, dentro all'interno, che stia un po' nascosto perché qua. Voi eravate qua mentre io al piano di sotto, nella mia testa vi stanno raggiungendo. Arci era in questa stanza, nella mia testa loro sono sulla porta e Arci dietro di loro. Esatto. Aggiungo un dettaglio che magari non sarà un dettaglio: su questo tavolo, sotto un telo che Giulio ha scoperto, c'era essere quello che sembra un cadavere con la faccia di Giulio stesso. È un dettaglio, via. Magari non sarà un dettaglio tra poco. Cioè, a me sembra delle parti del corpo forse, che lui riconosce come sono. Ma forse il dettaglio che hai omesso è che tu da gorilla lo sai. Penso sia la campana. Ah, sì, c'era la campana, sì. C'era una campana, quindi cos'è? La corda, cioè l'area che credo dovrebbe essere, sì. Ok. E detto questo, niente, stiamo combattendo contro i vari Bellevue e via dicendo. Esatto, e tocca al Golem. Fai magari un riassunto come siamo messi a punti vita, siamo messi bene. Errore. The Bruce Noble device not appear to be attached. Invece sì. Sì, è un problema. Cosa sta succedendo? Che non stai registrando? No, stiamo registrando. Non mi ricordo come si chiama. Ah, join tape. Non so mai perché no. Blue Snowball. Mi avete messo un enorme pulce in un orecchio. Cosa? Perché ridevate? Ah, scusa, ho dimenticato di spiegare. Ho una pulce gigante in un orecchio. No, in realtà Blue Snowball però è attaccato. Perché c'è stato la presentazione. È rosso, no? Sì, è rosso. È stato scandito Ambra Masotti. Ah, hai pensato al vocale di Ambra Masotti. Che non saprò mai perché l'ha fatto. Ah, nessuno lo saprà. Tu lo sai, secondo me. Tu lo sai. Non conosco gli non conosco più gli Yaki. Un po' che lo conosco. È stato fatto fuori dalla mia giurisdizione. Ora è giusto che se ne so va. Che è una di quelle cose. In effetti sì. So che è una di quelle cose quando tipo avremo 60 anni. È presente quel vocale? Cioè, mi ha mandato, mi manda. Tipo ieri mi ha mandato prima lo screen di una notizia di su Salvini. E poi dopo una su Trump. Che va bene. Cioè. Vabbè, cazzo, però se non nemmeno gli dai corda su ste robe qua, Giulio, cazzo. Ma capito, Marco, sei. No, sei il suo nuovo amicone. Ho capito. Cioè, io non gli davo troppa soddisfazione. Tu cosa avresti, fatto? Gli avrei detto, sì. Ma io visto. E questo è da ricordo. Ma infatti anch'io a un certo punto. A me non mi frega un cazzo. Però gli dicevi sì. Ma Giulio. Cioè, mi manda sto link di Facebook dove c'è Salvini che in Ungheria fa sto elogio della flat tax. In Ungheria, paese sviluppatissimo. Però. E poi mi scrive: sì, stanno benissimo. Sì, stanno benissimo. Madonna, che propaganda becera. Becero. E niente, io. Che brutto amico, che Giulio. No, beh, io gli ho risposto dopo un'ora. Devi impegnare un po' di più, però. Dopo un'ora mi sentivo un po' in colpa, gli ho risposto. Mi sentivo un po' in colpa. Vedi come comincia così. Comincia così, Giulio. Guarda, gli è venuto l'asma a forza di sopportare. Ma sei stato anche quello, lo stress da Yak. Ciao, Yak. Va bene. Detto questo, tocca al golem di carne. Che in questo momento è addosso a me. Esatto. Io come ero messo nei turni? Non eravamo in lotta, vero? Stavamo solo spingendo. Tu sei dopo, praticamente subito dopo. Sono primo? Non sei primo, però c'è il secondo, golem, terzo, c'è quattro, Clovin, che vabbè è irrilevante, poi ci sei tu. Ma è vero, Clovin stava suonando il violino nel frattempo suonando, pensando di calmarli, ma quanto pare. Canto, sono fatto capire prima, però io non lo so. Senza glutine, eh? Allora, il golem come... Anzi, finalmente, dopo essere riuscito a spingere indietro il gorilla... Non eravamo in lotta, stavo solo cercando di spingermi per far passare gli altri. Che finalmente ti arriva addosso e ti dà due ceffoni. con calma. Cioè, alla fine, in realtà, avendo fatto quello che dovevo fare stamattina, non ho vari. Sarete felici, diciamo. Andiamo avanti finché Rezza non ci capisce. Esatto. Vabbè, anche dopo volendo. Direi che 9 non ti colpisce, è vero? Magilla gorilla. Magilla gorilla. 9 non mi colpisce, una classe 12. Forse vuole dire 13. 13, chiedo. Allora 12 danni. Sono al locomotive il 16. Ma hai detto che non mi ha colpito. Con uno. Ah, con l'altro. Però devo capire come funziona. Dammi una matita. È una gomma. A 13 piedi veramente. 13 è al locomotive, spacca. Ci vai della mia. Fabio ci vogliamo andare, però non dobbiamo capire come funziona. Cioè, hai riconosciuto delle canzoni a memoria, cazzo. Cioè, spettacolo. Ma perché tu normalmente durante le tue giornate lo ascolti? A me piace, sì. No, a me piace. Gag a parte, a me piace. Poi, cioè, ovviamente fa ridere, però a me piace. Non ho mai approfondito, ascolterò qualcosa. È la crisi di mezz'età di Vettel, è venuta prima. Visto che lui deve morire prima. Io in questo momento sto ascoltando 13 e i pinguini. Sto trovando questo. Ah. Ok. Beh, Vettel. Clovin, sì, in realtà vedete che viene... 12 danni. Sì. Ascolta, catta, e a che distanza sono ormai? Sono di fronte a te. Quindi sono lì e io gli spazzo. Clovin, comunque se posso... Però abbiamo stabilito una cosa. Clovin era qua. Era andato già sugli spalti. No, era già andato. Clovin era sul lato, sì, era che suonava. Era tipo questa altezza. Esatto. All'inizio. No, non è entrato. Quando... No. Noi, era qua, noi siamo qua. Tipo qua, mentre gli altri stavano... Ma io sono certo. Noi siamo all'ingresso. Mi ricordo che lui è entrato mentre uscivano gli altri perché io ti ho chiesto... Attacco il gorilla. No, perché c'è un dettaglio che me lo ricordo, perché ti ho mi lancio giù attaccato, perché lui era entrato e loro uscivano piccone. E mi hai detto l'hanno lasciato stare. Afferro il paladino e cado di sotto addosso al gorilla dicendo al paladino uccidiamo il gorilla. Mangiato Clovin. No, ho capito, ma io uno è uno l'ha buttato giù dalle mura. Allora non era questa roba. Perché ridi? Ci sta. Magari era l'unica nostra. Vabbè, io ero lì. Vedete che precipita dalle mura della pazzia. Vedi che dovevi sparare. Io inizialmente anche io ho pensato di sparargli. Aspetta, però dopo gli ho detto no, dai, facciamo. Vedi a seguire per una volta l'indicazione del paladino. No, vedi le due facce del Joker. No, poi facciamo il buono. Vedi le due facce del Joker. Ma è difficile qua. Cioè, il mio, cioè, io alla fine, secondo me, lo sto interpretando molto bene, a differenza di quello che dite voi. Nessuno ti, anzi. No, cioè che voi siete dei gran criticoni. Esatto. Allora, noi siamo qua. Io ci provo, Noi siamo due davanti all'ingresso, sì, quindi sì, sbarriamo l'ingresso. Sì, e dietro abbiamo Arce che con un dildo ci potrebbe curare. Allora, sì, non ci può curare. Sì, non ci può. Sì, beh, ci può. La sua schiena ce l'avete. Non può prendere danni, quindi non può perdere il gorilla, ma non ci può neanche curare. È la regola, non è come se non ci fosse, è un fantasma. Finché io sono gorilla. Questa cosa. Vabbè. Sì. Al massimo smetto di essere gorilla. Beh, serve concentrazione per fare no, la cura, infatti, no? Le cure le puoi taci. Lui l'ha detto. Gorillati. Sì, no, è perché se lo escludiamo, lui non può, Arcata non può attaccarlo. Ah, in quel senso. Quindi non può fare nessuno. Cioè, dipende come lo gioca lui. Cioè, se facciamo finta. Anche a me avrebbe fatto comodo per le cure, però esatto. E allora, il discorso è, noi siamo qui due. Io non perderò mai concentrazione, però. C'ho uno davanti e io lo attacco. Okay. Ma non ci servono armi magiche qui. No. Ma tu volevi lascia? No. No. Okay. Si passano le armi d'arco. No, non mi ricordo. Tu la vuoi lascia? No, aveva fatto un discorso. Sì, per l'angelo. Perché io gli per l'angelo voleva lasciare. L'angelo. No, okay, infatti lui si è fatto male. Vabbè, io attacco col mio spadone normale. In 3 punti ferita. Vero che l'hai usato per ucciderlo, ti sei fatto male, vero? Io secondo me 3 punti ferita neanche io ho sentiti. Io ho già usato il channel e secondo me ho usato tutti gli incantesimi. No, sì, no, ne ho ancora 2 da 1. Non so, ragazzi, io non li segno le vostre. No, ce l'ho io. Ne ho 2 da 1 e però io ti ho dato quella di Arci, ma non so se fine tutto. Fine channel e vediamo. Vabbè, lui ha usato polymorph e qualche cura ferite. Non so prima cosa ho usato. Dei cura ferite basta. 13 Pietro preso colpito, sì, buono. Oh, hanno classe armatura 11 sti qua. Ah, è vero che hanno 25 punti, fanno schifo, ma in realtà sono fortissimi. 2-1 da ritirare. Vabbè, 5 4 9 danni. Okay. Secondo attacco, questo è 26, quindi dovrei prenderlo. Questo ritiro è molto bene. 11 4 16 e 15 è molto ferito. Che palle. Quanto devi fatto? 15 più 9? Sì. 24? Sì. Hanno tipo 25, 26. Tra i 25 e i 30 al massimo. No, meno di 30. In effetti non sono pochissimi. Gardistern, Pack, Garrosh. E niente, continuo a smazzolare, non... Ma è offerta libera. Più... Cosa? 7 euro. Beh, l'aveva detto anche prima. Ciao Arci. In diretta. Sì, l'ho già detto. La quota l'hai sì. detto. Infatti abbiamo commentato che sarà l'unico pezzo di diretta che lui mai vedrà. Esatto. E... Adesso vedrà anche beh, in caso l'avesse perso. Bravi. Niente, continua a colpire non nel gol. Dove l'attacco qua? Più 9... 15. Colpito. Facevo? Ah sì. 3 di 10 più 6. È vero che mi serve un di 10. Ma no, uso quello delle decine. Va bene, grazie, grazie. Puoi usare quello delle no, decine. No, tieni quello. Tieni quello. Sì. Madonna, serio. Possiamo fare una campagna in cui ci diamo sceo. Come ogni campagna. No. No. Se vuoi. 19. Di solito tu muori, ma non per danni. Colpa nostra. Sì. E... Sì, ne ho due di attacchi, quindi faccio il secondo. 20 naturale? Corretti. Quindi tiro 6 di 10. Ma dai, cambia coso che ha sprecato. Se posso. Cosa puoi? Colpirne un altro. No, no, colpisco. Gigi. Overkill. Ma tira due volte quelli, tanto lo uccidi col primo attacco, cioè è abbastanza inutile. Passa per una volta che vomito dadi. 4, 3, 7, 15. Boom, grandi. Cioè, tra l'altro, cioè, da mica hai tirato 10, da Dio. 15 da Dio più 26, 41 più 6, 47. Mi avresti ucciso in questo ma ha ammazzato il golem? No, no, il golem faccio niente, non posso attaccare. Ma pure gli attacchi fisici, il golem. È lì che ci vuole la magica. Voi siete dall'altra parte. Allora vedi che mi ricordavo il ragionamento. Sì, sì, per dopo però. E niente, basta. Piacichetto direi. Ah, non è che l'ho colpito talmente forte che quello di fianco ha subito un contraccolpo emotivo. È spaventante, dai. Si sono infervorati di più. Non posso usare questo attacco per intimidire? No. Che modo. Va bene. Cazzo, in che modo ho spappolato. Inventiamo le regole, catta. Ho spappolato un suo compagno. Si spaventerà un minimo. Quindi qui ce ne rimangono. Così. Che peccato che è stato il secondo attacco. Tra l'altro sì, 4-8 okay. Che tiro ho fatto? Decidete cosa farci. Quando non contano. Patk che cosa fa? Cioè, domani sta fermo, non lo usiamo. Non lo usiamo. Cioè, come lo... sparerebbe un cantrip. Sparate un cantrip. Ah, fai scegliere al master se c'è o non c'è. Facciamo. Spara un cantrip. Se no lo vuoi usare tu? Oh no, non usiamo una di voi. Che cazzo è cantrip? Ah, il solito. Bolt, Bold Fire, cos'era? Sì, questa però è pericoloso, perché potremmo rischiare che il master si accorge che lui tira tipo 3 dadi in più ogni volta. Se le mosse da Arci. No. Che ci aggiunge cose. Andiamo in incantesimo. No, quando faccio Thunder Wolf così. Cazzo. Sai che c'è? Faccio Thunder. Potrebbe essere un problema. Io l'avrei fatto. I miei personaggi l'avrebbero fatto senza dubbio. Potresti... In realtà avrebbe senso farlo al piano di sotto, però. Mi sarei buttato. Dammi, no? Pensaci un attimo. Zitto. Al piano di sotto colpisce un sacco di bestie e colpisce anche sì, a me molto. Tanti deve punti buttare ferito. Di sotto. Per farlo. Ah, deve... Perché? Perché ha 5 piedi di raggio. Se si mette in fondo alle scale, poi lo fa. You are a mode of fire, a creature, on a hit the target takes un di 10. Spara un cantrip, firebolt. Ah, non è garage allora? Non è produce flame? Sì? Ah, sì, è vero. Firebolt è per sorcerer wizard. Vabbè, devi fare un attacco, se colpisci fai 2 di 8. Vabbè, uguale, cambia solo il danno. Produce flame. Ma tanto, no, aspetta. Che bonus di attacco incantesimo sono un più 6. Che merda. Più 3 saggezza. Più 6. Niente, 9. Stupidi, stupido druido un pompato mi sulla costituzione. Atlas. Atanas, che ricordiamo essere maledetto. Ma se uccidi un altro animale, non c'è una. Non so, adesso uccido qualsiasi cosa incontro. Per bilanciare, non so. Se uccidi una farfalla. Primo attacco, bam, becco. E faccio. Suppongo quello già ferito. Esatto, 7 danni. Segato. Secondo attacco. Sì. Ah no. No, c'è un 2 qua. Non sta male. Cosa vuoi sapere? Più 7. 9. Secondo attacco niente. Terzo attacco. 9 più 7, però ecco, e sono 8 danni. Ok. Tocca a loro. Allora, iniziamo da appunto, rimaniamo qui. Per cui quelli dall'altro spalto si avvicinano. Okay. Il prossimo turno stanno camminando qua. Esatto. Quelli che hanno fatto il giro corto sono già da voi. Gli altri là, che hanno fatto il giro lungo e che hanno buttato Clovin. Clovin è morto o è solo caduto? Avete visto che è volato giù. Fatto... Ha smesso di suonare, quantomeno. Non sentite più suonare di sicuro. Poi il suo destino, chi lo sa. Per cui, quello che hai attaccato ti attacca. Con i suoi possenti o un morso e o... una unghiata o una pugnalata, perché hanno anche quelli, ma non c'è assolutamente differenza tra i due. Dopo per scontato che lui non suona più e non è caduto a cazzo. Come sta facendo passare il mal di testa? Ragazzi, ma dicono che per farsi passare una sbornia pesante il giorno dopo devi bere un po'. Se no, una cazzata. No, servirebbero tipo bevande carbonate zuccherate. Tipo la Sprite dovrebbe tipo gli alcolici. Ah no. No, dovresti prendere zuccheri, proteine. Eh? Ma il salto è caffè che mi dia di vita. Sì, anche. Proteine. Niente, il primo che avete davanti ti manca completamente. 2, 3. E poi fa per andarsene. Sì. Ah, ok, davanti a me. Quello che è davanti c'è a te. C'è nel senso di scappare. Abbiamo opportunità. Opportunità. Tutte e due. Sta a vedere che Clovin rompeva il cazzo con chi è prima iniziativa? Tu. Vai tu. Vai Giulio. 11 però. No, lo becchi. 11 lo becchi. Sì. 11. Buono. Morto. 14. Sì, 14. Ok, è molto ferito. Non è morto. Come molto ferito? Ma non hai capito quello? No, quello che avevi già ferito tu e l'ha già ucciso lui. Quello è già morto. Un altro, scusa. Porca. È un altro che lui aveva fatto danni, tu gli ne hai fatti altri, adesso dovrebbe morire. 9. Muore. Ciao Giulio. Tu gli avete fatto. Avanti prossimi! Tu gli avevi fatto 9. Quanti danni avevi fatto tu prima? 8. Più 18. Sono 7, 8. 8 più 18, 26, quindi ne avevo almeno 27. 27. Si avanza quello dietro e ti attacca. Okay. Stasera sono carico. Comunque quello stava scappando perché ha visto il mio attacco di sotto e esatto, si è spaventato. Si è spaventato. Veramente. Vedi che fa così. Questo dopo averti attaccato torna indietro. Federico Fasano, guarda. Oh, bella fase. Oh! Mazz! Ma a Bologna Fede. Fede. Fede sei a Bologna. Cos'è? Mi viene a salutare Fede. È a Bologna Fede. Sì. Tra poco fanno la sfida, ciao Fuse. Tra poco fanno la sfida con a tennis? Sì. Il rematch. Oh. Hai visto Fede, sono così fatta. almeno qualche video dovrebbero farselo. Per fortuna che non ci. Cioè, per fortuna. In realtà sarebbe molto divertente se ci guardassero interessati. Però. Quello che ti ha attaccato torna indietro. E un altro prende il suo posto. Okay. Io non capisco quello che dice ogni tanto. Lascia perdere. No, ho tirato più di 6 in. Ma va bene così, eh? Noi apprettiamo. Fa la stessa cosa. Anche quest'altro. Che neanche adesso però 20 possono fare sto giochino. Il movimento attraverso gli alleati è permesso. Oh, 18. E tipo attira finché non colpisci. Ah, quello è un 19. 5 più 2, 7 danni. Bene, arriviamo a 4. Gli altri attaccano Vez. Ma quanti possono attaccarci, scusa, in quel punto lì? In questo punto qui, nel momento in cui il primo che vi ha attaccato si è ritirato e gli avete fatto gli attacchi di opportunità, per il vostro turno li avete finiti. Quindi gli altri possono attaccare. No, e... sì, ok, ma fisicamente quanti ce ne stanno? Davanti a voi ce ne sono 8. E ti attacca tutti a 8? Ti sto spiegando. Fanno a turno, si muove, si va indietro. Grazie. Classe armatura, Vez? 16. Quindi solo uno ti colpisce. 4 danni. 3. Hai 38, Vez. Il terzo. È in piena forma. Ti manca. Il secondo. Ti manca. Ma non colpisce mai, vero? Faccio cagare. L'ultimo. Cambia dadi. Oh, non ti colpisce. 3 danni. Cambia dadi. Farò solo. Oh, per una volta che non fa critico, sti cazzi, cioè, nel senso, Giù. Ecco, riprendi i dati. Scassi. Adesso lo lascio. Cioè, è un coglione. Adesso comincio a fare, lo sapevo. Allora, buono, che dimensioni hai? Huge. Che vuol dire quanti quadretti? 4, 2x2? Sei un quadro. Non ne ho idea. Medium, large. Quindi medium, large, è più huge. Grande di large. Medium è 3x3. Large 2x2, huge sarà 3x3. Minchia. Quindi, occupo metà stanno. Quindi intorno a un 3x3 ci stanno 4x4. 16. Sì, calcola il golem. Ah, il golem è medio. Il golem è medio. Interessante. No, è un po' più grosso. Ha usato un sacco di materiale per fare. Quindi ce ne stanno 12. 4x4. Non è l'area. 4 su un lato, 4 su quello opposto e i due centrali. I due centrali. 12. 12. Vabbè che poi se possono, golem, vabbè che se possono, come fanno davanti a loro, spostarsi, in realtà dipende da te. Adesso il primo ti attacca. No, ma tanto ti stanno. No, se possono circondo. Spostarsi, in realtà possono attaccarmi infiniti. In teoria sì, se non fosse che quelli che non ci stanno continuano ad andare a correre dentro invece sì. di stare lì. Quindi ci sono 10 mongrel che ti vogliono assaggiare la tua succulenta carne di gorilla. Non ho usato attacco in counter, non so se. Ma non potevi neanche. Perché? Okay. Siamo gorilla. È vero. Ce lo ricordo. Uno ti colpisce col suo morso, 4 danni. Via. E mancano altri 9. 11 hai detto, un altro morso. 12. Che buono sto gorilla. 12, non 11. 12. 9 più 3 fa 12. 4 danni. E andiamo. Stai segnando, vero? Poi ci ha disegnato tutti assieme. Cioè. Tanto ti ha fatto 4 e 4. Sia con le artigli che col morso. Puoi riprendere questi dadi per favore. Beh, non è troppo difficile. Sono 3, 4, 7 danni. 8, 15. Mancano 7. Ti manca. Vai a 6. Colpisce col morso. 3 danni. Vai a 5. Un bel crittazzo, così mi piace. Questo fa. Però fa solo 3 più 1. 4 danni. È un critico. Sì, è un critico da 4 danni. È un colpo normale da 3 danni. Mancano 24. Sì. Solo uno ti colpisce. 4 danni. 28. 3. Colpito con entrambi. 5 danni. Dai, ci siamo quasi. Sambirico. Giulio, chi è il tank? in questa occasione. Altri 7 danni. 40. Mi manca così 40 tondo è bello. Dice con tutte e due. Puoi andare 50. 3, 4, 8 e 2, 10 danni. 50 tondi. Sei 82. Vai. Ma non era 140? Ah, era no. 132. 132, vabbè. 132. Quindi tu ne hai intorno 10. Quindi posso resistere un altro turno e mezzo. E altri. Un'altra dozzina, più o meno. Pizza anche un po' di morte. Cioè, un altro lo ucciderai. Due. Forse. Uno. L'altra dozzina passa oltre e effettivamente tu hai una portata di 10, giusto? Passa oltre, cosa vuol dire? Cioè entra dentro la sala e va verso la scala. In teoria me l'ho messo davanti alla scala. Esatto. Però mi ha spinto, in realtà io avevo detto cercherò di mettermi, però non so quanto davanti è fattibile. Alla scala. Sì, l'idea era di, va bene, entrano nella stanza, ma io non... non vorrei non farli passare, in teoria l'idea era quella. In teoria a me bastava un passo e sono già davanti alla scala. Vabbè, Vez, piano B, lasciamo Sceo qui, facciamo evocare le armi e darci e andiamo. Cioè, io sono qui e la spinta indietro. Se li fa passare un po' un casino. In teoria un passo lo posso fare, rimettermi davanti alla scala. Questo ne volete ancora, metto io? Dipende io quanto mi ha spinto o meno. E soprattutto... dura perché volendo si possono anche arrampicare, chiaramente ci mettono un po' di più, quindi è comunque a vostro vantaggio. E questo per dirti che se vuoi hai un attacco d'opportunità con quelli che provano a passare. Quelli che provano a passare, sì. Quanti? Vabbè, non so. 11. Colpito. Solo con l'uno perché è un più 2, quindi no, più 2. Per... no, 14 più 6, 20 danni? Sì. Scegli tu su quale. Sì. Ma tanto a nessuno era ferito. Poi tocca al golem. Quindi una dozzina hai detto? Sì, stanno provando a salire. Poi chiaramente essendoci tu in mezzo fanno un po' di fatica. Sono e più urlo rallentati. E urlo, che cazzo urlo, sono un gorilla. Urli con un gorilla. Posso bestemmiare? No, vabbè. Golem. Per avvisarli. Ti dà altre due ceffoni. Questo è un di 12. Ma sotto quanti... 14 ti colpisce. Sì, ha detto ok, va bene, ti ha mandato lì. Ma... ah. 14 ti colpisce. 14, sì, o 12. Questo che mi ha dato, Sceo? Sceo. Se non mi scordo. Quindi sono 12, 14. Ah, oh! Sono 28 danni dal golem. Spara anche quelli di Yak, così hai capito? 28 danni ho preso dal golem. Penso che tornerà presto un anno. Un po' un casino. Ma sì. Quanti sono complessivamente? Giù ce ne sono 12 che mi circondano, compreso il golem di carne, e un'altra dozzina che sta cercando di salire. Come fanno un'altra dozzina? Cioè, tu sei alle scale, come fai? In realtà mi hanno spinto indietro, ma poi comunque sì, possono anche... si stanno arrampicando. Possono comunque scale. Arrampicarsi. Ovviamente sono più lenti, però riescono a passare. Sono scale, ma sono di legno le scale? Le scale sono di... no, Beth, gli hai chiesto una descrizione. No. Posso bruciare le scale? Che figata! Effettivamente sarei d'accordo. Tutto il secondo piano di legno. Posso bruciare tutto il secondo piano? Però ci sei anche tu. Chi se ne frega? C'è il tuo cadavere. Sì, sono di legno. Mi hai impedito di bruciare la casa in cui abbiamo iniziato l'avventura. Non so, magari ho un incantesimo o qualcosa per distruggerla in un colpo diretto, però è difficile. O... ok. Se no, fate... cadere la campana che sfonda tutto. Non è una campana di quelle grandi, è campanaccio. Provate a suonare. Magari la se la suoni svegli il golem Giulio. È sopra le scale, la campana. Bellissimo. Sì. La campana è qua, è questa qua. No. Sono lanciate il cadavere di Giulio giù per le scale come diversi. Però ho una domanda. Dal porta qua l'alce passa. Dalla porta giù. Beh, cioè puoi entrare in cortile per intendere. No, quale porta? No, nel cortile qua non sono ammassati degli altri mongrel. No, ormai non ce ne sono più. Sono tutti dentro. Cioè c'è chi ha fatto il giro di qua ed è salito e chi è entrato di qua. Ci stanno circondando. Sono già entrati tutti, allora. Vabbè, polleggio. Comunque la richiamo almeno all'ingresso qua del... Non so se sia il portone qui. Sì, guarda sotto, guarda. Qui. Ok, esatto, lì. Che almeno Quanto sia pronta ad agire. Ok. E vabbè, niente, attacco. Beh. Mettiamo i due attacchi qui, insieme. Sì. Allora, uno è un 14 e l'altro un 18. Colpito. Quindi direi che entrambi colpiscono. Vediamo il primo. Il primo sono 11 danni. Mm-hmm. E l'altro. L'altro sono 8 danni. Ok, molto ferito. Sì, sono tutti molto ferito. Ha beccato il golem a questo punto, quanti cazzo di punti avrà? Eh sì, ma più che altro non so se arriviamo. Che allora, fa tanti danni a tu. Patka e Garrosh. Che, cioè, io speravo che lì non ci riuscissero ad attaccare in 8. Patka spara il boltino. Ma se ci curassi? Colpito. No, siamo... Ah, effettivamente. Vabbè, un turno. Vabbè. Forse sì. Sono un po' sperato. 10 danni. Lo uccide. Niente, io continuo. Non so se sposto. Anche se mi sposto, becco 10 attacchi di opportunità. Sì. Oppure fai un disingaggio. Faccio disingaggio per andare su. Sì, occupa le scale. Esatto, quello che pensavo. Tanto non so esattamente a livello di regole, però l'idea è mettermi qua. Sì, dovrei fare rampa, arrampicandomi un salto con le tue capacità da scimmione. Faccio un athletics. Esatto. 28. Che cazzo. È muto, muto. La scheda me la farci. È muto così. È muto, muto. Fai un mega salto. E sono qui, insomma, dove comincia la scala, sui primi gradini. E arrivi lì. In modo che non riescano neanche a arrampicarsi sul lato, cioè sono proprio lì a bloccare. Che quello che passa prende sberloni da me. Sì. Suona anche la campana, perché faccio vibrare talmente tutto. Sì, la campana suona. Suona? Magari sveglia davvero. Sono curioso da quel finto Giulio. Quanti anni fa il tuo attacco? In che senso? Sfonda le scale. Ma non voglio attaccare. Sfonda le scale. Beh, dopo sfonda le scale. Sì, non posso adesso, se no avrei cominciato. Vediamo se le scale reggono il tuo peso. Vedi la botta del salto. Però non cado giù, cazzo. Donkey Kong. Lancio barili. Dov'è qua? Vediamo che partono tutti sti gruppi. Comunque in teoria... Che schifo. Che? Niente, la vita sociale. Sta messaggiando con Yak, ma non te lo vuole dire. No, volevo capire, però secondo me il è attaccato il microfono. Era solo uno che ha avuto un momento di sconforto. Niente, non puoi capire il disagio stamattina, cioè a mezzogiorno e mezzo, quando stavo venendo in qua a passare. Tutta quella gente in mezzo al palo. Cosa? È presente la gente che cammina per le strade. Se lo appoggio all'orecchio. È presente la gente con due gambe e due braccia. Ah, veramente. Che si assembra. Che parla. Luoghi. Che parla. No? Madonna, dovrebbero morire tutti. Almeno con le cuffie non li senti parlare già meglio. Però gesticolano. Che... Poi c'è stata vecchietta che non si è fermata per fare una foto, io la stavo per travolgere. Perché io ero dietro, sta qui sta fermata di colpo per far scattare una foto. E la domanda è perché non l'hai fatto? Ah, un briciolo di manifesto. Come ando? Devo vedere se sfondavi tutto. Può darsi che sfonda tutto. Ah, perché ci ho messo troppa forza. Beh, sei. Ma io l'ho fatto in maniera leggera. Non so quanto peso in realtà. Quella che fa danza classica. Non so quanto peso. Non so, sei huge, vedi tu. Huge. Ah, più che altro il fatto di fare un saltone e arrivare con tutta la gravità. Sì. Permanente. Cosa? Niente. Ah, cattolo, non lo trovo più. Sì, è basso. È basso. Ovviamente devo controllare. Non è anche così tanto. Non credo capire se parla da qua o da là. Scusa, è semplice. Prova. spalla. La fiatella alcolica che è la stessa. Si è bloccato con le mie espressioni magiche. Cosa fuori? Non è un buon momento. Dispositivo predefinito. No, aspetta, aspetta, aspetta. Basta che io guardi questo. Penso che stai parlando. Ci siamo. È da so, tu o mia, però. Non so andare. Di quella, secondo me, qui che va il microfono, in teoria. Vabbè, continua a caricare. Vabbè, adesso è forse perché ha di difficoltà, però. Aspetta, birichini. Birichini. Adesso è quel pezzo, sicuramente stiamo un po' bloccati, però in teoria è il termine. Ci siamo. No, le nostre preghiere saranno già momento. No, adesso sicuramente è bloccato. Perché? Siamo un po' scattini. È che io parlo delle zone. Però secondo me adesso se smetto di pasticciarci no, si piglia. Volume massimo. Ah, vabbè, no. Ci sono diretta quello però. No, però Giulio si sente bene, quindi vuol dire che va bene. A posto. Come poi sono Giulio e l'altro. Come dico l'altro? Si cambiava, ma sono messo. Più minuto è fermo sul Giulio, faccio da birichino, questo mi preoccupa. Faccio da birichino. Infatti mi preoccupa del più questo. La mia classica faccia. O più questo. Oh, ste scale cedono. Ecco, adesso l'ho trovato. Dai. Più 6. Cioè ho forza 23. Ho forza 23. Io sono Giulio il malvagio. Okay. È bellissimo. No, però essere loud, può essere il video che sì, il microfono è no, il video è completamente bloccato. Io sono un'immagine fisica. Sì, però sì. L'audio va liscio adesso. Ah, adesso torna, sento, torna posto anche l'audio, anche il video. No, che mi servono cosa? Da come? Per no, soprattutto di catta per fare fai finalmente Instagram di Tycoons and Dragons. Facciamo no, cazzo. Insomma, dicevi che compravo gli denti. No, però devo fare delle foto da per... siete... Vabbè, abbiamo riso no, va bene, a posto. Dopo che abbiamo sentito giù no, immagino. La posso, aspetta, no. Torniamo pure a giocare. No, ma stiamo comunque continuando a giocare, che catta non trova. Catta, è ok frizzarsi lo schermo. Ma... aspettavo che mi dessi via. Devi fare una foto. Non so perché giù lo schermo del master, aspetta. Ma perché stai facendo delle cose? Cazzo se ne devi frega? Per l'imbarco attraverso il mirto. Riempi il bicchiere. Che cazzo fai Giulio? È un cappello stupido. Sì, beh, non è un cappello stupido. Però è buona questo audio, toglilo. È bello avere il commento sì, in sottofondo. Va bene, le scale crollano. Oh, che cavolo crollano? No, però. Esatto, sei arrivato sopra e loro cedono. Tiro sulla destrezza per non cadere. Per appendersi? No, sono serio. Alla botola sopra. Va bene, puoi farlo con svantaggio. Ci sto. Quindi uso anche la proficiency? No. Vabbè, athletics. Sì. Di una cosa di riflessi più che di atletica quindi usa la tua destrezza più destrezza pure di sotto puoi saltare di sotto sì, bellissimo caos questo non lo so peccato peccato però comunque catta wow sta molto giusto per purtroppo ha fatto solo col più e io tu sei il primo. Grazie. Quindi modo per farvi la sala di giocatori. Sì. Allora, l'ultimo. Dipende da che punto lo vedi. E lui prova a ridarti indietro i colpi che gli hai vittima. E poi torna indietro. Cosa fai? Se lo seguo, lo finisco. Un meno almeno. Attacco lontano? Sì. Eventualmente anche io. Eventualmente. Dai. Lo usi. Non usare. Usare lo prossimo. No. 8 più 4, 12. Segato. Poi. Arriva un altro che ti attacca. 18 mi dica. Ah, 4 danni. Quel dado piccolo lì di mezza, sì, il dado piccolo di mezza. Hai ragione. Che fa meno male. Poi questo si allontana. Questo lo devo colpire io. Mm-hmm. Se vuoi. Quanta di vita? Poca. Questo è il sale. Che faccio? Però tanto comunque. Uno colpisce. Cioè, colpisce. Cioè, se vuoi puoi tenerlo per il prossimo, però guarda. Dove stassi. 21 direi colpito. Sì. Ritiro i danni. Ucciso tutti mentre non c'ero. Allora. Catta con sta tecnica. Strategica. No, è la tattica mordi e fuggi. Mi hanno permesso di riprendere questo. I Bellevue che facevano fatica a scandire due parole sono diventati. No, Blitzkrieg. Esatto, sono diventati a sbranare le cose. Sono bravissimi, come avete visto nel villaggio. Sono diventati, sì, ho capito. Vai. Allora, porto questo in cucina e tanto. Anche questo non ci vedo più, dai. Se anche voi a casa avete da dare delle bicchiere sporche. Poi uno su Vez. 3, hai detto? Sì. 16. Questo fa 17. Usiamo il dado grande. Ah, no, ne avrei. Si è fatto 17, no? 16. Hai ragione. 5 danni. 30 sono, no? Sì. Ma bello un sistema che tu colpisci solo se fai il 2. Sì, bellissimo. Dovrebbero un pochino i. Che bel sistema. Che altro non cambierebbe assolutamente niente. Potresti andare nudo in giro. Anzi, e ti conviene perché se hai 4 non ti colpisce nessuno perché tutti hanno. È vero? Esatto. Bravo, nudo è fortissimo. Vedi che sei. Ultimo. Studiato. Allora, ti colpisce con entrambi. 2, 6, 8 danni totali? Sì. 21. Giusto? No, perché ho fatto altri 3 danni prima. Allora quindi sei 19. Dietro di loro si ricongiungono con l'altro gruppo. Ma è finito, non è più Iron Hands? Esatto. Ma io di attacchi di opportunità. Mm-hmm. Ne hai uno. Solo? Usa la tua reazione. Che è la tua reazione. Che è la reazione 1. Se usi la tua reazione per qualcos'altro non è neanche quello. Perché io avendo il doppio attacco non cambia cazzo. Non cambia niente. Beh. E credo ci sia un talento che avevo. Non mi ricordo. Io prima ricerca 12 mi hanno superato per arrompicarsi. No, sì, mi viene ha senso. Però mi viene quindi perché? È un gesto veloce. No, c'era quella combo tra il Polearm Master e il Sentinel che Se siamo guerriero. Ci arrivi, beh. Questi erano i mongrel di sopra. I mongrel di sotto. Scelgo. È fastidio qua. Ne hai 12 intorno. Era per avvicinarti di fatto. L'ho buttato da lì per avvicinarti. Ah no, sì, adesso tu quindi sei a. No, non ti sei riuscito ad appendere, quindi sei caduto. Non ho caduto. E così ci arriviamo tutti. Sei quindi in mezzo alle macerie delle scale e qualcuno si è fatto male di loro. Non è un'altezza sufficientemente alta per. Ma hai cascato sopra un gorillagine. Vediamo se sei cascato sopra qualcuno. Ma anche dei pezzi di scale. Tutto. Che quelli che si stavano arrampicando sulle scale sono caduti, ma non si sono fatti dei danni sufficienti per farsi del male. Però non sei caduto sopra nessuno. E quindi ma sono detto enorme che gli altri sono agili. Master. No, la percentuale hai tirato sotto però sei provato la percentuale era 99% no dai 75-25 di successo allora, vediamo un po' cominciano ad assaggiarti di nuovo. Se faccio sopra il 4 un morso che arriva. Allora 2 danni è un D4 il 3 mi piace Gino però ricordami la serratura 12 di chi? Tua? Di scelgo nel gorilla quindi sono 2, 4, 6 danni 8. Prima quando ne avevo 12 due danni. Un turno mi hanno fatto 12, 50 danni. Quanti danni sono? 2. 10. Ma che oggettivamente tosti. Una solo. 4 danni. 14. 2. No, perché li stanno facendo? Ti mancano. Ma quant'è? 50. Comunque ringraziami che senza il mio cambio di dadi 4 rischia di durare un 18 a questo turno lo leggo, il prossimo no. Ti mancano, divento nano con i miei 84 punti, ce n'è ancora prima che cada 42, lo può è vero che lo 42 lo riporilizzare Arci, no, 53 ha finito intanto con quel livello 4. Può trasformarsi lui? Sì, entrambi. Va lui. Ci cura adesso turno e poi il prossimo va. Sono 5 e 3, 8. 3, 31. In realtà te converrebbe venire sopra. Sì. Infatti io ero venuto sopra, ma sono ma cala. Adesso lo faccio. L'idea era venire sopra, l'ho fatto 4, troppo irruentemente sul calotto delle scale. 37. Però l'idea era proprio quella. L'ultimo. Ti manca. Nessun sono a posto. 12. No, ti colpisce con entrambi. Nessuno insieme lo fa. Su, però siamo circondati. 3 e. Ma che un po' ci metteranno ad andare dall'altro lato. 37 e 43 e 11 punti ferita. Devi scalare. Vieni su. Solo che c'è il golem. Tocca al golem. Torno là adesso. Allora. Io. Prendi un'altra scheda. Ti dà due ceffoni. Potrebbe mancarmi. Potrebbe. Ti colpisce. No. Tutte e due? Sì. No. Ho tirato basso, ma non così basso. Ho più sempre a colpire. 10, 12, 16, più 14, 30 danni. 30 danni. Come sono 11. 19, ne perdo e vado a 23. Fai come un orso, finisci morto. Merda, sono a 23 circondato. Io gli do a Giulio. Ok. Quindi sopra ci sono questi. Dopo il golem c'è Vardistran. Quindi eravamo a questi. Che sfida. Ok, però no, non posso neanche venire su. Figati. A meno che. Beh sì, puoi comunque fare un Athletics per salire su. A meno che Arci non possa trasformarsi in qualcosa che mi viene a prendere. Tu sei. Sei un nano. Vabbè. Adesso. Come funziona Arci? Arci qua. Vabbè. Vabbè. Se deve andare giù conviene che vada giù da orso. Però. Solo che se non mi cura io tra poco vado giù. Beh, il. Sì. In realtà adesso è sparito il corpo gigante del gorilla e al suo posto c'è il tuo che è molto più piccolo. No, ma lui può fare un athletics per salire su. Ma non potrebbe anche non avere bisogno dell'athletics in virtù del fatto che. Corre sulle pareti. No, quello è il problema minore. No, che sono circondato. Vabbè, quello prenderà. No, ti dicevo. Eri circondato quando eri un gorilla. Ah, beh, ho spazio adesso. Adesso. Ah, beh, loro sì. Paradossalmente c'è un quadretto tra me e loro. Sì. Va bene. Allora, io intanto sta meno. Anche di più di un quadretto. Tanto sta te. No, 3x3. Vabbè, io continuo a me perché non posso fare altro visto che non ho più cure. Vediamo. Prima occupare uno spazio di 15 piedi per i 3x3 quadretti. Adesso sono solo il quadretto al centro, quindi c'è proprio una cornice di un quadretto che non occupo più. Quello che ho davanti gli faccio 21. 16 danni, morto. Però ho finito così. Uno davanti e uno dietro. Hai ucciso uno. Ora sono solo 14. Là. Ok. E dopo Vardistran ci sono Patka e Garrosh. Vabbè, Arci curava. Ma no, vuoi vedere prima? Cosa? Visto che possiamo cambiarci il turno io e lui. Poi vedo cosa riesco a fare. Quanto io eventualmente. Boh. Ah, cura. Non state benissimo. Ok. E quanto gli rimane? Quanti incantesimi gli rimane? Boh. Questo. Sicuramente questo no. Sicuramente ne ho usato uno di questi. Boh. O questo vuol dire che li ha finiti? No, la X non l'ha usato. Ne ho usato uno qua. Cioè questo che era qua l'avevo usato. Quelli di terzo. Fagliene usare dal secondo, cosa sono? 2 di 8. 2 di 8. Cazzo. Vabbè. 2 di 8 più. Poi secondo me sarebbe meglio se evocasse della roba. Più 3. E quello lo può fare il turno dopo. Beh, lui. Che fa massa. Vabbè, vediamo cosa fai tu. Allora io. Vai. Baldini di record su. Sì. Un attacco di opportunità lo prenderò. Ne prendi 2 o 3. Nel senso da un lato, per forza. Però dai, 6 lire. Almeno riduci danni. Beh, un'azione ce l'ha però. Con la quale lui. Disingaggia. No, non sono ingaggiato. Non è ingaggiato. Se prende l'attacco di opportunità. Però è perché passa attraverso. Ah, beh, pizza. Allora non c'è più niente. E potrò fare pensando... un'azione per saltare. No, esatto, l'azione gli serve per fare da dove fino al muro, arrivare su, e gli serve anche l'azione per far tutto. Ok, ha due movimenti, quindi. Sostanzialmente sì, uno è un movimento e l'altro è l'azione di salire. Potrò fare l'azione per saltare e poi fare il movimento. Allora, che sia movimento sia scalata, ma non si applica al suo caso. Se lui può fare tutto il movimento, non è una no, gli serve con un movimento solo, non ci riesce troppo poco. Allora ha due movimenti, sì. Semplicemente per quello non usa l'azione. Ta-da! No, alla fine arrivo su. Adesso vediamo quanto male ti fanno. Ah. 18 adesso però, Non mi cantano 2. No, questo no, più 3, no, 17, solo 1. Ah. 2 danni. Ah, che diventano 1. 22. Vedete una bestia pelosa e rabbiosa salire da quelle che erano le scale. Dopo di Arci c'è Atenas. Ti cura 7-10 punti ferita. Io attacco chi è davanti a me. Come lo so. E adesso? Dai, c'è. Posso anche recuperare 2 di 6 temporanei se uccido con la lancia. Che schifo. Dali via. Mancato. 6, perché scusa, mancato? Perché l'altro erano 2. Questo beccato sono 6 danni. Sai che non so. Beccato sono. 9 danni. Dipende. Se si fanno così, aspetta, che ci attaccano in 8 a volte. Aspetta. Se Arci si mette a usare un time dove do robe ad area, ha usato bene, in realtà può spazzarne via diversi. Un turno. Ma infatti deve fare tutto Arci adesso. No. Purtroppo no, però. Quasi. Cioè, forse ci conviene che lui vada avanti da orso. E noi non so bene che cazzo. Come abbiamo fatto fino adesso, che lui tiene un lato e il resto del gruppo tiene l'altro. Come io tenevo una parte e voi l'altra. Beh, adesso lo speriamo che tanto non Thunderwing non ce l'ha, quindi siamo il resto. Lui c'ha tira ferite. No, io farei l'evoca. Se lui evoca della roba, c'ha massa. No? Evoca animali. C'ha della massa. Ma quanti ne abbiamo ancora su di sti cose? Allora, davanti a noi ce ne sono 14. Abbiamo fatto attaccare da ci sono quelli che avevi, i 12 che avevi addosso e i 12 che stavano cercando di salire. Io pensavo che arriva, cioè lì davanti. Quindi voi ne avete 14 e giù ce ne 24 più i gol. Beh, qui c'è uno spazio, pensavo che ci attaccassero massimo in 4, cioè non in 8 a volta. Hai capito? Quindi ce n'è voi da voi 14 giù 24 più i gol. Giù bisogna capire se riescono a scalare. Sì, lo stavano già facendo. Con calma, ma arrivano su. Allora, secondo me conviene che Arci evochi degli animali che ci facciano un po' di massa davanti. O delle aquile. Poi se ne tiene uno per le aquile per mandarci via. Perché è probabile che avremo bisogno. E poi dopo. Scusa, se lo facciamo il giorno subito. Dopo lui si fa orso e va davanti. Va davanti lui. E poi noi teniamo a bada no, quelli si che fa vengono. Fa orso sopra. No, dopo può trasformarsi anche in aquila. lui conviene che si faccia orso e tenga lui tutto. Però aspetta, se dobbiamo tenere il piano per gli altri, lui deve invocare animali a concentrazione. Sì. Ma tanto non ce l'ha più la concentrazione del gorilla. Sì, nel senso, se va orso e va alla morte, gli animali rischiano di... Giusto? Ah, va bene, però almeno... aspettiamo, se no se si fa orso direttamente. Vabbè, vediamo. Adesso tocca ai mongrel che attaccano voi che siete davanti. Perché se no, secondo me la cosa è che lui diventa orso. Però scusa, orso che cos'è di questi? Cioè una cosa extra. No, è la sua capacità in due. Conviene che lui vada, che lui vada davanti da orso. Che vada davanti da orso. Noi ammazziamo quelli che arrivano da sotto. Adesso può fare un'altra volta. Penso. È l'unica. Come abbiamo fatto al contrario con me sotto. È l'unica. Poi rimane il golem però. E il golem, il golem non c'è chi ignora. Sperando non venga giù. Penso alle scale, cazzo. Vabbè, però... può scalare. Vabbè, però forse lo riusciamo a sbilanciare per buttarlo giù. È un umanoide meglio, lo tenevano su tutti. Che giù sono 24. Sono troppi, cioè comunque muoiono dopo tre turni questi, cioè dopo tre colpi questi. Cioè è molto pratico, quindi loro ci colpiscono in 8 volte. Diamo 6 colpi, che vuol dire che ne uccidiamo 2 a turno. Ci conviene andare ci vogliono almeno 15 turni per finire. Comunque ci colpiscono tutti, cioè in 8 a volta, cioè sono tanti. Anche se fanno 3-4 danni alla volta. Io pensavo col fatto che qui c'erano 2 quadretti, qui non ci riuscissero a risparmiare. Secondo me la soluzione è quel cazzo di Giulio morto. Io ho questa sensazione da quando siamo entrati qua. Non lo so, voglio che si rianimi e sia dalla nostra. Non avendo, non avendo un incantatore che fa danni ad aria, dobbiamo telare. Il primo ti attacca e ti fa colpisce con una volta. Giulio, Arci non ha niente ad aria. No. A intralciare però. E se ne va. A intralciare. È quello che è già ferito? Sì. Vai. A intralciare. Ma non l'abbiamo già visto che non... lo può usare giù. Vai, quei 25 almeno non vengono su intanto. No, vediamo. Cioè, vediamo. Se vuoi puoi colpirlo anche tu, è quasi morto. Ah, cazzo, non è morto. No. Allora, becco. 7, 4, 11. Muore. Quindi ne rimangono 13. Poi quello dietro prende il suo posto, attacca Giulio e manca, se ne va, arriva quello dietro, ti manca 16. Se ne va, arriva quello dietro, sì. Prima colpisce. Prima o poi. Ma tira tutti con vantaggio? No, due attacchi. No, attacchi. Eppure. Anche io non pensavo all'inizio, hanno anche due attacchi. Esatto. No, infatti cioè, sono fortissimi. E... quarto. Colpisce. No, non sono dei minion. 5. E poi gli altri su pezzo. Sì. 19 ti colpisce, 3 danni, secondo, 17 ti colpisce, sono tira 4. 2 questo? Con 17 con 18 ti colpisce, quindi dai, se è morso sia l'unghiato o la pugnalata, tanto fanno gli stessi danni, che sono 4 più 3, 7, l'ultimo, 5 quelli però, No. Mi ha fatto la cura di Arci. Vabbè, ti serviva per farti un turno di cura. Bene, golem si guarda intorno e passa tra i nostri alleati. È l'unica. E come si dirige verso l'uscita, non so come lo vediate, ma diciamo sentite i suoi passi andare, tornare indietro. E guardi, allora, beh, sicuramente attacco, poi dopo vediamo. La situa. Cioè il prossimo turno. I 13 possiamo. Che abbiamo davanti possiamo anche affrontarlo. Il golem sente questo e se ne va. Beh, io però non c'è più. È stato. Lo so, ma lui la sente. Arci evoca degli animali, mi sono puntato. Il problema sono quelli che stai arrivando sotto. Vabbè, arriveranno comunque tutti. Porca da di qua. Porca miseria, di nuovo tre con lo stesso danno. Cioè, se non riescono a salire vanno di là e fanno il giro. Non cambia niente. Ci metteranno un po', cioè, Il tempo che tu combatti quelli che hai davanti, 14 danni a uno. No, dipende se, okay, se vochiamo abbastanza animali. Che faccio, rimango lì? Sì. Dopo Verdi, ci sono Patrick e Garrosh. Cosa? Niente, io comincio a attaccare chi? Io sono lì su con voi, Appunto. Attacca. Stanno venendo da sotto. Cioè, c'è qualcuno che sta salendo da giù. Si stanno arrampicando. Cioè, dipende, con poco o io sto lì a difendere la scala, no, oppure vado alla porta. Vai alla porta, attacca. Dove siete voi? Sì. Non siete di fronte all'ingresso. Hai detto che ci si può muovere nei quadretti di un compagno, perché loro possono e noi no? No, loro si ritirano. O mi ritiro e ti faccio passare. Allora spingo via Vez, che sta mezzo morto, e mi metto sul posto. Mi ritiro e prenderò due attacchi di opportunità. No, sì. Ma scusa, non può fare semplicemente un passo tu di lato? No. Di lato c'è un muro. Vai. Critico. Costa. Per salvarti la vita. L'altro ti manca. Sono 8 danni. Vai, scio. Tu che tantesimi ti sono rimasti? Sono due, io, ovviamente. Di primo. Vabbè, cura ferite me la faccio. Magari. Ho uno scroll 15? Del cura ferite. Quindi ti torniamo al D6. Lo scroll magari di cura ferite non è di più. Più 4 più 2. Credo sia. Quindi 4 sì. 12. Muore. Bene. Quindi. Abbiamo 12. Quindi segnami 2 di 6 temporanei. Scusa, Shield of Faith. Che cazzo è? Date due classi armature. Tiro i due di 6 temporanei. Cosa? Oddio. Vedi? Cioè, cosa che... è caduto e ha toccato il tappo. Ecco. 7 danni, 7 PF temporanei. Grazie. È che me li tenevo. Cioè, secondo l'ipotesi di andare a beccare il golem. Tecnicamente ho caricato. Tecnicamente hai caricato. Ottimo. Quindi faccio un attacco extra. Ma tu giuro che c'è un 11 sono 36 sì, no, dico perché un win recuperare anche 10 ce l'ha, quindi manchi solo con uno, esatto. Faccio 2 2 4 8 quindi più 13 questo potrebbe essere più 13 19 19 e poi il mio secondo attacco normale, posso farlo? Sì, cazzo, tra l'altro è una bonus. 7 sì, posso fare il mio, ho due attacchi, questo era quello. 5, quindi sì. La classe armatura, 18, però usano più 4, non più 3. 9. Beh, sullo stesso. Un quarto sì. Di morte. Sì, ne uccido un altro. Non ringraziate. Si tira sempre almeno 16-17. No, non ringraziate. Pat? Facciamo evocare gli animali. O diventa orso e va lì davanti. Però se diventa... aspetta. Dove farei fare un evoca animale? Aspetta. Se diventa orso non può più fare incantesimi dopo. Danaro è più utile. Gli animali, facciamo un po' di bordello. Gliene fa... Evoca animali. Sì, io bordello. E poi dopo, scusa, quando si è messi malino, lo facciamo andare in prima sì. linea. So, evoca degli animali. Se evochi qualcosa che vola, impedisce a quelli che si stanno arrampicando di venire su. No, ma dobbiamo far fuori. Ma giù. Questi ci pensi a noi, quelli che vengono su, li tiriamo giù. Noi dentro, sì. Cioè, uno dentro c'è dei nomi. Quindi di tu noi, dici di io. Evocare qualcosa qui? Sì, liberare qui e andarsene, perché gli altri 30 che ne arriveranno prima o poi. Però ci chiudono poi la strada di là, non è uguale. Ci però... andiamo con le aquile. Ah, tu dici, quindi il piano però è andarsene? Può... Scusa, non possiamo fare le aquile e andarsene. Evoca qualcosa che faccia male. Quanti incantesimi di terzo? Aspetta, ma l'intenzione di andare via o di provarci ancora? No, questi forse sono quelli... Ah no, sì, quindi scusate, l'intenzione è di andare via o di provare? Solo che quando lui evoca animali, no, lui dice aquile e non è detto che vengano tutte aquile. Non lo so. Quindi facciamo aquila di base. Vabbè, possiamo farlo anche adesso. Scusa, facciamolo e andiamo. Se l'intenzione è quella di voler andare via, andiamo via. Vabbè, questi qui davanti li miniamo perché dobbiamo partire da qua e non è che possiamo partire da dentro con le aquile giganti. Volendo possiamo andare ancora più su qui, mi sa. No, è finito. No. Ciao. Cerbia liberarci la via. Vabbè, però nel senso, cioè se ci mancano 10 tizi, ci liberano la via, andiamo via. È l'unico. Di quelli sotto, a parte il golem, è uscito qualcuno. Sì, stanno cominciando ad uscire. Vanno di là. Vanno a fare il giro, certo. No, cioè, ci mettono un evochi gli animali tre turni. Ma no, tre turni. Un quadretto sono 10 piedi. Loro fanno 30 piedi. No, 20 mongoli. O sacrifico l'ace. Quindi fanno 4 quadretti a turno. Non importa. Scusa, evochiamo gli animali qui. Cioè in modo che noi li circondiamo, questi 10 li facciamo fuori, il turno tra massimo 2 turni ce ne andiamo. Evochiamo gli animali. Che come animale volete? Potete esprimere una preferenza e prima decidete la classe. Allora facciamo però il CR. Se evoca l'aquila ne evoca meno. Dovete scegliere la. Mi pare che teneva come può essere. Aquila gigante, dai. Il discorso infatti era, infatti il discorso che si teneva lui è che lui diventasse un'aquila, così eravamo sicuri di avere il minimo di aquila per andare via. Se volete vedere che classe di intanto io non sono più challenger for... già è antico, l'ho peccata qua che challenge? Challenge 1 quindi guardi conjure woodland beings inside Conjure Animals e comunque dai ne fa di danni quindi non tanti. Ne può evocare, può evocare due bestie di challenge 1 o più basso, può un po' cagare in realtà, peccato, però facessi un po' di challenge più 1 se doppio 3 volte o 4 volte come non cazzo faccio fatica a uscire da qua se... Era quello che dicevo, ma perché state evocando le aquile? Sì, se prima oppure 8 bestie di challenge un quarto. Cioè, se volete prima sgomberarla via, evochiamo qualcosa che faccia danno. Non abbiamo abbastanza aquile, secondo me. Quanta gente ci sta sopra un'aquila gigante? Due nani, dai. Ah, ma tanto sono l'unico nano, a parte... Beh, io posso provare a scappare con l'alce, volendo, se passano tutti. Mi butto giù e l'alce mi raccoglie, se no. La caduta quant'è? Sai, un di 6 no, ogni 10 no, scusa, è large, i cazzi, cioè è più grande di noi E quindi ce ne stanno due, cioè almeno per planare a terra due sicuramente, cioè direi cat non so quanto pesa, vabbè al massimo uno lo può prendere per le zampe, vabbè comunque come altro lo volevi uno prendere. va sopra sopra è un po' difficile, a forza 16 comunque sta qui, ti prende per le zampe al massimo non vola ma ti fa, ascolta, ti fa planare da questo piano a giù quanto c'è? No, non sono come le acque del Signore degli Anelli, sono un po' più piccole. Dovrebbero comunque, essere dovrebbero essere 20 piedi. 20 piedi? Sono 2 di 6? È l'unica cosa gigante che vola. 2 di 6, ok. Va bene, posto. No, da il cortile interno. Sì. Vabbè, altrimenti io le mura una volta che sono passati tutti gli altri, io mi butterò giù e prenderò l'alce. Vabbè, ma al massimo l'aquila ti fa planare un attimo. Cazzo, forza 16. Vabbè. Allora evoca gli altri, dai. Le spie giganti si cavalca, dai. Che non lo può fare. Sto fidarci. Che non sa che non può fare. Non può ancora fare. Volare. È dall'ottavo livello che può evocare animali che volano. No, che può... che può polimorfarsi. È ritardato. Usare la forma selvatica. Scusate, no, ho sbagliato io. Okay, sì, è la forma selvatica quella. Sì. Non può trasformarsi lui. Quindi non può diventare un aquilo. No, lui no, vabbè. Allora, dovete scegliere in 4. Dovete scegliere dopo. Quale delle 4 opzioni? Se una bestia di challenge 2, due bestie di challenge 1, 4 di challenge 1.5 o 8. Quante di challenge 1? 2. 2. Facciamo 4 di challenge 1.5 o 8 di challenge 1.4. Facciamo i lupi, i classici. Quindi, se scegliete i lupi che sono challenge 1.4, gli 8 lupi. Tirato un D8 per vedere quanti effettivamente di questi sono lupi. Cioè quindi le aquile ne fa uno o due. Le aquile non può fare. Challenge 1 l'aquila, quindi ne fa due. Cioè tira un D2. Tira un D2. Però almeno una sarà un'aquila. Quindi. Una o due, in ogni caso è poco. Sì, ma anche il prossimo incantesimo può fare. Cioè, nel senso. L'idea è adesso ripulire, quindi prendere quella di... Sì. Ma quante volte questa quella viene una? Può venire ma anche se ne vengono due e se lo rifà. Vabbè, Arci non c'è qua, quindi lui rimarrà dietro. Morte come avrebbe fatto in ogni caso. Il punto è che se anche ne viene una qui, non è che può rifare l'incantesimo e fare uno più uno perché è concentrazione. No, certo, questi svaniscono. Cosa vuol dire? Che lui deve mantenere. Ma lui può avere più di un incantesimo, però. Non ha concentrazione, no? Questi animali hanno concentrazione è un incantesimo che puoi mantenere. Vai, tiro io il D8, vai. Quindi in realtà le aquile non le facciamo. Lupi siamo, giusto? Okay. Vuoi fare voi i lupi? perché sbilancio. 6 lupi. 6 lupi. Più 2 a special order. Perché le aquile ne abbiamo una o due, che in ogni caso non ci garantiscono la fuga. Ma due, sì. Vabbè, Arci va da orso e scappa da orso, cioè fino a qua. Lupi, manuale dei mossi. Però deve avere concentrazione, non può mettersi a correre di mezzo a loro. Cosa ti serve? Le statistiche. Di... Vabbè, tenetele voi, sono 6 lupi e 2... quali erano le scimmie? La scimmia di Challenge un quarto. Non mi ricordo come si chiamava. Però è già comparso in passato, mi sa. Ora qui io ho intanto i due gruppo. Ok. Monkey qualcosa? Quindi per comodità agiscono no. Insieme a lui. Quindi sono? Sono 6 lupi e 2 scimmie. Come si possono chiamare? Ape? Boh, guarda. Ape? Media? Challenge? Un mezzo. No, allora ce n'è un altro. Di challenge un quarto, non so, scimpanzé. Gorilla. Cos'è il babuino? Scusa. Babuino. Non è quello vero, no? Che challenge? Challenge? Zero. Beh, potrebbe. Wolf. Il wolf l'ho trovato, non so. Cosa ti serve comunque un mezzo? Un quarto. Quarto. Cos'è elk? L'alce. L'alce! Ah, scusa, anche quello è un quarto se vuoi usare l'alce. Va bene, due alce. No, aspetta! No, se vuoi la scimmia. Sono i giant, li salto, che direi che... Ah, forse mi ricordo male, mi sembrava che avesse bloccato il due scimmie. Quando eravate inseguiti dalle prime marce. Me lo ricordo anch'io. Però se no non del pseudo drago. Pseudo drago, no, sono servono delle bestie. In quarto ci sono anche le pantere. Un ottavo c'è il mastiff, che io posso cavalcare mastiff. Ovviamente. Un ottavo o un quarto? Un quarto. Quello dei lupi. C'è la pantera. Sì, c'è la pantera, se no, no mal che vada, scusate, ma se mal che vada noi ci buttiamo di giù, evochiamo... C'è lo stormo di pipistrelli, non so, in vista... Evochiamo tipo le alci, i cavalli e andiamo con quelli. Sì, buono, andiamo con quelli. Ma dobbiamo scendere. Ci buttiamo. Sì, e lui ha concentrazione, quindi deve farlo dopo che siamo passati usciti, perché sennò becca una botta e non ci sono più. Se non un constrictor snake. Va bene, c'è lupi e due constrictor snake. Dai. Esatto, lui comunque potrebbe fare tipo orso e dopo va comunque più veloce degli orsi. Sì, ma se prende una botta, ma io tengo il cospetto, spariscono i nostri cavalli, è quello il problema. Andate, agiscono in questo turno insieme a lui per comodità. Che cosa gli fate fare? I lupi attaccano la gente. Ma io uso lo scroto. Lo scroto? Due lupi su uno. Mi dai... 12. Sono i lupi, ti ricordo che... Scrollo. Cosa devi vedere? Ho uno scroll di cura ferite e potrei farlo. Non so neanche se farlo. Sì, quindi si sbilancia. Aspetta. Bite. Sì, si sbilancia, ma. Cioè non so se la differenza. Becca. Vabbè. Tiro i dadi e prendiamo la media. Sì, per comodità meglio. Allora, sono 14 danni. Mm-hmm. E dici 11 sulla forza o è prono? Due volte. Sì. Direi che fallisce. Forza più uno. Non cade giù? No. Se per nell'attuazione dici di spingerlo, allora lo può far cadere. Abbiamo altri 4 lupi. Sono già morti? Allora, due hanno attaccato uno e l'hanno buttato a terra. Uno attacca un altro. Possono buttare giù? No. Se fanno una prova di spingere e l'altro prova contrapposta. Quindi il quadretto è 10 piedi. No, sì. Ma non buttarli giù. Che comunque no, perché io posso spingere. Sì, cioè, no, lo so, con il mio attacco posso spingere di 10 piedi. Quindi fa ok. Sì, ma in parte quello, però dico non avrebbe senso perché si sposta di un quadretto ma rimane su perché è largo due quadretti. Quindi sono largo 10 piedi, Quindi, se quindi tu... un quadretto è 5 piedi? Sì. Non 10. Lì nella mappa un quadretto è 10 piedi, no? Però ah, no, qui se è 5, lui è sul cornicione, cioè, se lui no, sul ho capito, cornicione capito. Cadrebbe giù, cadrebbe giù lo stesso. Vabbè, il lupi è un altro lupo, attacca un altro. Una becca. Fa 7 danni. Un altro, ok. Prova. Sbilancia. Oddio, cioè in realtà può anche essere che qua riusciamo. Tu che prima riusciamo, le hai chiesto, riusciamo. Quanto è alto da qui a giù? Un altro lupo piedi, attacca un altro. Possiamo anche rischiartelo. Lo manca. E l'ultimo lupo. Lo buttiamo da questa parte. Ok, no, aspetta, 1, 2, 3, 4. Se no quando tutti loro sono entrati. Riattacca questo che è mancato. E le aspettiamo. No, ci buttiamo. 7 danni. No, possiamo buttarci davvero. Ma super. Anche l'ultimo lupo attacca questo qua. Però scusa, è una gran idea. Lo becca. Oppure qualcuno li tiene impegnati, qualcun altro butta una corda e scendiamo. Noi facciamo un po' di largo qua. Scusciamo, ci buttiamo tutti giù. I due serpenti. Li aspettiamo qua. scusa, i due serpenti. Il serpenti. No, scusa, ma c'è detto, sei lupi e due serpenti. Arrivo. Quando sono arrivati i serpenti? Okay. Insieme ai lupi. Mi lui pompi ero rimasto alle pantere. Ah, se, li sta facendo sempre. Se no magari non si butteranno giù. Ah, se mi dici che cosa sono, ci guardo io. No, no, c'è io qua sotto. Vabbè, non c'è niente quello lupi. No, se no, dico su serio. Fa constrict. Mm-hmm. Ah, okay. Scusa, se tre di noi li tengono impegnati insieme ai lupi, uno cala una corda. Su uno che non è stato attaccato dai lupi. Ok. Anche. Però lo manca. Un altro sullo stesso. Tipo Arci, che tanto sta rimanendo dentro, cala una corda. Dentro. Anche tu, beccato. Cala una corda. Sono 6 danni. Sì, volendo sì. E il target tu hai Arci. E Arci tra i cavalli qua. Quello. Tu hai l'Arci, lui i cavalli, via. Okay. Quindi va bene. Allora, la davanti a voi. Tanto loro sono o qui sotto, okay, o qui che fanno il giro. Atanas. Qui non ci sono. Stamani. Ti diciamo da giocatori quello che stavamo pensando. Di fare. Alcuni di noi tengono impegnato qui insieme ai lupi e uno cala una corda dalla finestra. Scendiamo, evoca dei cavalli e ce ne andiamo da sotto. Ok. Forse è meglio che con le acque. Sta a me. Cioè, abbiamo un numero sicuro di bestie. Ah, c'è uno grappolo. Queste sono finestre, queste tre. Aspetta. Facciamo così. Queste tre sono finestre. Sì. Però pensavamo. Mentre io, Giulio, più o meno Arci e i lupi sono qui. Mm-hmm. Che attirano sia quelli che stanno arrivando che. Mm-hmm. Gli altri da qui calerebbero. Cioè, beh, calerebbe una corda da qui. Mm-hmm. Tanto. I tizi o sono qui dentro, alcuni che stanno mm-hmm. piano piano uscendo per fare questo e andare su di qua. Mm-hmm. Gli altri sono qua sopra, qui non c'è nessuno. Sì, ma lì non c'è. Cioè, poi siete arrivate qui. Qui, esatto. Le Arci evoca dei cavalli e usciamo. L'idea era quella. Mm-hmm. Va bene, tocca ad Atanas intanto. Cosa ti serve? Non mi ricordo se. Cosa o come si. Action Surge bonus per ripiegare un po' di vita. Le storie su Facebook. Oh, no. Oh, 10 in più il mio livello. Quindi 17. Ma che siamo messi in posa? Concentrati. 46, 46, 53. Sto un fiore. E davanti a me qual è la situazione? Allora, ai lati il gruppo che avete davanti è stato preso dagli animali, che quindi ne hanno ingaggiati 4. Sì. Quelli che hai attaccato. Attacco quelli che non sono ingaggiati. E quelli che invece sono davanti a voi ne rimangono 7. Attacco 9 di 7. Lo becco. 5 più 7 è 12. Beccato. Eh? E sono 10 danni. No, lo si sentiva bene. Era voluto 7 più 7 è 14 e sono 10 danni. È molto ferito. E dopo Atanas tocca a loro. Quindi quelli sbilanciati si rialzano e attaccano i lupi. Quindi 4, 13. Ok. 13. Cosa vuoi vedere? Quindi questo attacca il suo lupo. 19, 20, non male. Quindi gli dà un bel morso critico. Beh, si è caduto il dado. Che fa? 4 danni. E una pugnalata che fa 5 danni. Ancora 2 punti per il lupo. Ok, secondo contro i lupi. Per fortuna sta usando tutti i critici sui lupi. 3, 4, sono 9 danni col critico. Sta guadagnando la nostra strategia. E 2 danni col corpo normale. Zapata chi? Sarà felice. Poi. No. Gli altri Zapata, due. No, Zapata è fortunato per un metro. Quello dico Zapata chi? Senza Zapata 3 11 con sai il pitone. Sai Zapata al fantacalcio? Ah, secondo. Che abbia sempre 13. Ah, partita maledetta, Sanchez, Zapata e Medel. Quindi sono nella stessa partita, Zapata e Medel fuori. No, 12. Ok, e l'altro invece fa 6 danni all'altro pitone. Quindi quanti danni il pitone? C'è un pitone. Sì. Quanto è il pitone? Sei danni. Rimasto le ance. 6 danni. Ognuno ha visto una cosa diversa. Io ho deciso sui pitoni. Poi, io ero rimasto contro Atanas. Ah, io ho le pantere, tu le ance, lui i pitoni, vabbè. Okay. Con una 5 danni e 2, 3, 4, ok, se ne va, lo attacco, è quello già ferito, sì. Beccato, 6 danni, muore. Poi quello dietro 16 non vanno ogni tanto 3 danni siamo 5 poi questo se ne va Beth. Non sei più lì questo se ne va Shea ciao attacco l'opportunità ciao allora lo saluto 12 vedo colpito al pelo sì. 14 fai male quanti ne sono ancora? Davanti a voi ce ne sono 11 no adesso 10 e di cui 4 addosso agli animali e 6 addosso a voi questo si è fatto male però se ne va via un altro quest'altro attacca ma manca. Poi un altro, l'ultimo su Giulio, che però è andato in bagno, quindi in realtà adesso attaccheranno Beth. Io sono dentro, come cazzo mi attaccano? Scherzo, attaccano. Beth si chiude in bagno, se gli dici così. La armatura. Di chi? Tua. Ma hai detto Giulio? È andato in bagno. 18. Sì, 18, uno ti colpisce e ti fa 5 danni, quindi tienti la mente finché non torna Giulio. Certo. Non mancano. Li terrò a mente io sono 5 ha segnato 2 di 6 temporanei facciamo 29 fra parentesi perché sono temporanei quindi ti ha fatto 5 danni non so come li segno aspetta che lui va questo hai detto 18 ti colpisce con entrambi niente però scusa io sono rimasto ai 5 danni di prima 4 e 3 7 danni adesso 12 poi attaccano Giulio l'ultimo e lo mancano ma perché? L'ho tirato basso che domanda è perché 12 danni a Shea che è in era giusto? Sì. Quindi sei. Ok il golem esce e vedete che cammina in questa direzione e fa 60 piedi quindi fa 6 quadretti verso il diagonale è velocissimo la velocità di una persona normale ah beh 2 movimenti ha fatto sì scusami pensavo in un movimento dicevo minchia che cos'è flash ma come siete messi allora? Ce l'hai messo male guarda dipende se lasciamo i lupi un po' possiamo anche arretrare noi quanti ne abbiamo noi ancora lì? 10 no. 10. Però adesso anche gli animali si hanno accorto. Gli animali ne hanno prese 4, quindi di fatto ce ne sono 6 su di voi. Io. Beh, Shogun può resistere di mezzo a tutti i danni. Quanto ho? 17. Solo che se nessuno si sposta io non posso attaccare. Però questo va, a questo uno non attacco tanto. Io farei così. No. Mi curerei un po'. E la corda non so se metterla io oppure magari dopo ti sposti tu, adesso tu ti curi e io in questo turno attacco io, poi ci scambiamo e poi tu, tu vai a mettere la corda. Ci conviene fare così, ce l'abbiamo una corda. Prima che il master dica no, ma ce l'avete una corda. Explorer pack per forza, cioè corda. Io sono il monster art, io no, sia l'explorer che il monster. Ok, ce l'abbiamo una corda. Allora, e uso... poi un mantello col cappuccio. Vabbè, c'è poi quella della campana al massimo. Allora io uso lo scroll del che ho del cura ferite. Non dici che mi conviene usare un incantesimo? No. Volevo farmi anche la Shield of Fate con una bonus. Mi davo 2 di armatura. No. Ma tanto adesso andiamo via. Occhio, cioè, che se usi l'attuazione bonus per lanciare un incantesimo, poi posso lanciare un cantrip con l'azione normale. Ah. Quindi mi conviene farlo delle 2-2 dopo. Ma non ti conviene. Faccio la bonus, però non posso usare la reazione dopo. No, sono due cose diverse, il bonus e la reazione. Tanto adesso andiamo via, non ti serve tanto la difesa. Al massimo beh, dopo difendere. Quando vado davanti mi fa comodo però. Un turno solo devi resistere, quanto sei? Però comunque mi conviene tenere un cuscinetto se cado dalla corda, sono 2 di 6. Ah, hai ragione. E beh, è a 11. Ah, minchia, però la sono 11 sul poco. Scendere su una corda non sarà. È a 19, non ho fatto. Beh, Arci può fare un'altra cura comunque. Vabbè, faccio anche io, mi faccio un cura ferito. Tanto al massimo se vai a zero ti carichiamo su un cavallo e ti portiamo lo stesso via. Sì, tranquillo, fidati dei tuoi amici. Fidati. Cura ferito è un D8, no? Un D8 più 2 di 4 più 2. No, è da pergamena. No, è quella no, è una pozione. Quello uso l'incantesimo. Incantesimo. D8 più D8 più carisma. Nel tuo caso. 2 ho fatto col dado, porca troia, 5. Non prendi la media in quel caso? No. Sfiga. Dai, master. 16. Ho la tua stessa maglietta, sì, sei buono. Non so. Pezzo no, Gardistran, dopo c'è il suono Patrick e Garrosh. Io? Mi sostituisco. Ah, e faccio spostare l'alce qua. Sì, vedi l'alce che arriva. Non vedo niente. Non sei andato alla finestra? Sì, potenzialmente potresti, cioè no, sono lì dietro loro. Ah, ok. Pensavo fosse la finestra. Okay. Non hai un collegamento telepatico? Sì. Quindi passai, sì. Quindi io attacco e mi sposto, facciamo così? Sì. Cioè, oddio. Per quei tacchi di opportunità, di mezzo. Sì, il problema è che loro dopo entrano se tu ti sposti adesso. Vabbè, sì. Posso spostarmi... Posso ritardare il mio movimento? No. Cioè quando interviene lui mi sì, sposto io. Vuoi aspettare che faccia Patk con tutti gli animali? Cosa? È uguale, è con lui il discorso. Posso farlo? Attacco e poi dopo il mio movimento lo ritardo a quando preparo l'azione di spostarmi quando interviene. L'azione è un'azione, no. Non attacco. Tu fai il tuo attacco. Poi mi spingi via. No, dopo io ritardo dopo di te. Sì, facciamo così. 2 col dado, quindi 11. Senza la lancia non avrei colpito un sacco di volte comunque, visto che io rincorro le voci. Mi prendo schiaffo. E 6 di dado di nuovo più 8, 14. Ok. Secondo attacco. 1 di dado. Che spreco sta lancia. Patk e gli allegri amici del bosco. Allora, gli allegri amici del bosco. Comunque sono rimasti 5 lupi. Non è bello che lo vedi dopo che ha detto vengo, poi non ci guarda neanche più. Non è importante. Allora, il pitone attacca quello che sta tenendo grappled. Sì. E lo becca, però lo attacca col morso che gli fa al posto di 6 danni, gliene fa 5. Non credo. Sicuro, non ha del veleno o qualcosa no. Del... Avevi detto invece di 6 e ne fa. Esatto, stai 7. A vedere 5. Se no continua a costretto. No, vai, fa 5, tanto guarda, 5-6. Magari. Così. L'altro serpente attacca sempre quello lì. Lo colpisce e questo lo constrict. Sono questi due serpenti avvinghiati con sto tizio. E che condizione è constrict? Scusa. È grappled. Okay. Questo è doppiamente grappled. Beh, non si sono male condizioni. No, e prende altri 6 danni. È molto grappled, no, però. È molto grappled. E sta ai lupi, che sono più utili. Sono gli animali più utili del ma è Arci che sta al turno. Sì. Riesce a farmi una cura, dici o no? Sì. Allora, i lupi. Quanto i sei? Quindi, 16. Sì, ti serve. Non passi il turno. Cioè, un attacco. No. Su, passi il turno, però quelli che hanno davanti. Invece di tutti i 19, lo becca. E gli fa 7 danni. Più un CD 11 che sarà uno sbilancio. Anche perché comunque noi dobbiamo aspettare. No, non lo so, il druido che fa il druido, oh, non sono abituato. Ci conviene comunque che non passo. Attacca sempre questo. Boom! Critico, oh. Quindi 7. Beh, dopo una volta che abbiamo i cavalli, noi siamo 3 volte più veloci, non è più un problema. Sì, no. Mancano anche tre perché lupi. C'è anche un po' di effetto sul un lupo su un altro. Non si aspetta che noi abbiamo i cavalli e scappiamo, non sono geniali. 10 più 4, 14. Sono 7 danni. L'unico veramente fastidioso che può correre. Come vediamo, magari adesso ci viene voglia di uccidere tutti. No, facciamo. Però. Andiamo giù io e te a fare due turni. Un altro lupo attacca. No, e poi Arci sta finendo le cure. Però in teoria. Cioè, il problema nostro è il gol. Ultimo lupo. No, anche fossero solo loro. Guarda che 24 sono quelli che si stanno spostando e stanno facendo il giro. Cioè, 24 più il gol. 7 danni. Sì. 11. Mi dispiace per la città, ma ciao. Cade, mi sa. 11. Sì. Tipo, perché correte a cavallo mentre attraversiamo la città? Non si preoccupi, no, signore. La città la facciamo da qua. Ok. La città, la città è perduta. Cioè, glielo dice lui dopo che ha ucciso il figlio del borgomastro. Ah, ma lui gira a dire che capisce. Sta. Dalle guardie. O creiamo una resistenza. Ah, vuoi essere curato quindi in questo turno? Se può curarmi, sì, mi farebbe comodo. Sì. In una da due. Tieni conto che deve evocare dei cavalli dopo, sì, sì. Che non vi distraete. Non ho più incantesimi. Vuoi il secondo livello? Sì, sarebbe meglio. Avanza, mi sono visto. 7 più 3, 10. Visto. Era comunque stiamo, più 3, stiamo usando Arci come lui avrebbe giocato. Allora, sono a 26. Adesso non lo puoi sapere. Fidati, okay. Vero? Stiamo usando Arci no, come lui avrebbe trasformato giocato. In orso, avrebbe caricato. A un certo punto noi avremmo detto, ok, ciao Arci. Atanas. Attacco che ho davanti. 12, beccato. 5. E perito. 11. No, hanno 12, vero? 11. No, 11. Vai, vai, vai. 8 danni. Quindi rimangono. Un altro random. No, anche così almeno 20. 12 danni. Ok. Royal Rumble. Tocca loro. Ne sono rimasti 8. Quindi finiscono male. 3 attaccano i lupi. Uno colpisce con uno, no, e fa due danni. Un lupo su due. Quanto parli da solo? Guardiamo la formazione. Uno colpisce Censi. Con due. I lupi hanno 12. Che 3 a 2. Allora ti sta rimontando. 8 danni. Dai, lupi hanno 13. 69esimo e 70esimo. 4 danni. Uno due pazzesco. L'ultimo attacco. Rigore per la Lazio. Colpiscono entrambi e sono. Minchia, 10 danni. Due errori di Palomino in 2 minuti. Prima che un errore che ho usato. Poi sono alzati 3 lupi. Gli altri 5 attaccano voi. Quindi uno attacca Atanas. Quindi uno colpisce, l'altro no. 3 danni. Poi un altro su Atanas. Manca con entrambi. Un altro su Atanas. Chi è il tank? Io penso di aver subito una cosa come 160 punti ferita. Sì, ma li hai subiti molto velocemente. Sì. Guarda, guarda la mia scheda. Tutti i segni di cancellamenti. Ah, per lei pure. Un attacco su Atanas se lo manca. Ormai è finito il foglio. E poi l'altro attacco lo fa su Garrosh e gli fa un critico. Mi sembra giusto. Veramente? Quindi forse non c'è bisogno che ho ritardi. Esatto. 6 danni. No, 3, quindi 3. È a 3? No, no, 3 nel senso che è di mezzo. 14, chi sta meglio di me? Ah, allora io l'ho scagliato. Altri due attacchi su Garrosh. Quanti ne abbiamo? Perché erano 12, 6 sono questi. Quindi sarà 23. È a 23. Wow. E devi aggiungere 6 qui. Okay. Quindi qui è a 23. Ah, beh, allora. E qui non lo so. Il penultimo attacca due volte Garrosh e gli fa 9 danni. No. Vabbè, era 23 comunque prima di questo turno. Sì, 23. Cosa 20. E adesso altri 9. 9 danni. Quindi 5. L'ultimo attacco. 15. 16 ti manca. 16 ti manca. Sì, figura. Sì, e quindi ti manca. Il golem continua ad andare avanti. E con lui anche altri. È schifo. E con lui anche altri, ma sono più 20. 120. 80. Valdistran. Allora, io devo aspettare che si tolga Sheo, quindi ritardo. Ritardo il turno da quello di me. Si può fare, no? Poi ritardo l'azione, non il turno. Ah, sì. La mia azione. Però posso fare una bonus action, la posso fare adesso. La bonus action la puoi fare adesso. Una bonus action, uso Shield of Fate e mi do più 2 di classe armatura. Sì. E poi faccio il movimento lì e aspetto a fare i due attacchi quando lui si sposterà. Si toglie col... Esatto. Va bene. È quello che fanno loro, catta. Se non posso, possono far loro, potrò farlo anch'io. È un po' diverso quello che fanno loro. No, è la stessa identica cosa. Perché quando lo fanno loro... Ma io parte che lui... Scusa, il turno io lo posso ritardare. No, puoi ritardare l'azione. Puoi preparare l'azione. Non puoi ritardare il turno. Posso aspettare a agire come lo posso. Quando ne puoi... Cioè, poi sempre fatto. Prima. Adesso non funziona più così. Ok, il preparare l'azione, ma qui è proprio, cioè io dico no, toccherebbe a me, vado. No, dopo. Non si può fare. Cioè, è come se dicessi aspetto un attimo a fare una roba, non posso, si può aspettare un attimo. No, devi puoi solo preparare l'azione, non c'è ritardo il mio turno. Vabbè, se io mi metto lì dietro è come se fosse, se poi mi metto attaccato tipo lui al culo, sì, posso stare. Quando si sposta attacchi. Sì, sì, c'è un stacco. Questo era Valdistan. Sì. Patke Garrosh. Che fa? E gli animaletti del bosco. Oramai continuano. Pitone attacca tizio comunque. Lo stringe, becca, fai danni. Lo strito non ancora di più. Sta per venire squisciato. E anche l'altro attacca. Questi pitoni, questi due pitoni sono. Hanno stretto tantissimo. Una doppia elk. Dai, ci facciamo anche gli altri 24. E quindi stai tra i lupi. Il problema è il golem. Che non... Beh, Dio, anche gli altri 24 sono tanti. Però arci da orso. Se li mangi. Se li mangi. No, perché se hai arci da orso non hai poi gli altri animali. Vabbè. Arci da orso hai comunque. Ma come. Hai visto meglio? No, ma. Cioè, arci a 12. Con tutto senso. Sì, ma arci. Ma come me giù? Fai tre turni e poi finisce la magia. E poi i lupi. Orso. Attacca. di nuovo attacca, si becca lui, devo tirare giù, becca. Dai. Fa se vuole sette danni, però il problema no, ma tra l'altro non è di 8, il problema è il golem, bisogna avere armi magiche, questo no. Poi no, anch'io ho la lama, altro lupo, io la lancia, l'ultimo lupo. Becca, mi sa che siamo comunque continuando a andare. Quindi rimane uno. E quindi rimane uno 5. Patk spara un cantrip. Sì. Ma cosa deve fare? Quanto sono io? Non può più curare. Okay. Forse si è bisogno. Quindi cura. Perché io adesso non volevo disingaggiare, mi allontano e vado a metterla a curare a distanza, no? Cura di secondo. No. Deve toccare. Può preparare quando Shoyan è attaccato. Si inserisce e cura. Parola guaritrice. Che è una bonus. È una bonus? Parola guaritrice è una bonus action. Beh, può andare lì e poi spostarsi. Esatto. No, se vuoi fare qualcos'altro va bene, sono al limite. Adesso ti sposti in teoria. E beh, con gli attacchi di opportunità. Eh sì, no. Se mi fanno di nuovo un po' critici che sto... Cos'era? Healing World? Dai, un Healing World solo perché ho una bonus. Instantaneous bonus action, a creato fra your choice, che si può vedere revenge, un D4 più 3, cioè non è che ti cura niente. No, infatti serve per stabilizzare un umorente. Sì. Vabbè, se no fai il canto, va bene, fai il canto. Fai il country. Attacca. Beh, però attacchi di cui fa un sono 4 di 8. Bam! Bam, che schifo. Che bella la cultura inglese. 10, 12, 13. I giocatori mandano a fanculo tutta la famiglia dell'arbitro, l'attaccante qui era lì dall'arbitro. Questo prima ha fatto 2. Please, please, please, con le mani giù. Okay. 8, 2, 10, me. Questo ha fatto 2. 12 più 1, 13. Sei Watford però. Sì. Va bene, tocca a loro. Come tocca a loro? Tocca a te, scusa. Ah, ecco. E niente, becco gli attacchi di umidità, però l'idea è allontanarmi e... aspetta, allora. Fermo, tu attacchi e poi ti sposti. No, vado a mettere la corda. Attacca! E la corda? Attacca! Perché? Attacca! Attacca! Attacca! Attacca! Attacca! Se l'idea è scappare, cosa gli attacchiamo a fare? Ma prima ammazziamo questi, attacca. Ma cosa gli ammazziamo a fare? Scappiamo? Attacca! Più morti adesso, meno per la spopolazione. Attacca! Ah, ok, no, scappa. Ma che cazzo me ne frega? Attacca. Ma che senso è? Scappa. Dobbiamo fare danni. Danni, dobbiamo ammazzare. No. Attacca. Potrò usare il mio personaggio. Allora che cazzo ho aspettato io? Cioè, cosa vuol dire cosa hai aspettato? Cosa abbiamo aspettato un turno se dovevi fare sta roba qua? Punto. Attacca. E poi tanto dopo sei... cosa abbiamo aspettato hai un turno fare? Dentro per fare quel cazzo che ti pare dopo. Boh, non se sono io a prendere danni. Non ha molto senso però. Allora attacca, fai danni. Uccidi. Uccidi. Uccidi. Cazzo, sei un barbaro in ira! Sei un barbaro in ira! Cioè, te ne dovresti neanche spostarti. 9 danni. Fatti. No, che cosa hai fatto? Sì, in effetti sì, danni. Aveva senso che si sposti in realtà. No. Infatti dovrebbe spostarsi tu, dovresti spostarti tu. 13. Ma io ho ancora più difficile. Sì, infatti, vabbè. Attacca. E spostati ora. Togli adesso mi sposto. E aspetteremo un altro turno per scappare. E ora ti prendi un attacco di opportunità. Fai tutti i critici su Beth, così scende e non riusciamo più a scappare. Vabbè, tanto nemmeno. Ma non ha senso, scappavamo un turno prima. Perché dobbiamo aspettare un altro turno? Sono 8 danni. Non dobbiamo tempo di scalare. Ma tanto è inutile che, cioè, se noi. Attacca. Deve essere libera la via. Se non è che ci mettiamo lì a fare, arrivano 40 a tagliarci la corda. Ho capito? Vabbè, non hai capito. Hai capito. Ma... non hai capito. No! Ah, fermi! Vero, noi, cioè... nella preparare l'azione non comunque si l'ha colpito con un attacco. Allora, questo è un cazzo di critico. Okay. E questo colpisce comunque. Hai davanti a te due che sono molto feriti e uno che è in tonso. E io vado... chi attacchi? Col critico su quello che è in tonso. Mi serve un 8 di 6. Continuo a chiedermi a cosa serve il VAR nel calcio. Non gliel'ha dato? Ma in Inghilterra 5, 14, 18 danni. Pare, sì. Secondo attacco sempre su di lui. L'unica volta che l'ho visto dare è stata decentemente stata una partita dell'Arsenal. Secondo me dovrebbero che hanno convalidato quel gol palesemente regolare dell'Arsenal. Dovrebbero limitare. No, è altre cose. No, è già fatto. Atanas. Per me il VAR andrebbe limitato per le situazioni oggettive, cioè se la palla è uscita per i fuori gioco. 7 danni. E basta. E il fallo di mano per essere certi che l'abbia toccato o meno. Basta. Per i falli. No, la... sì. No, sì. 3, sì. 3, sì. 3, sì. 3, sì. 3, no, 3, 7, 10. No, Giulio, potevamo essere liberi lì davanti quasi. 11. Poi avanzavamo di nuovo. Non si fugge più. In Bitcoin come sposo. Quindi la spalla a sinistra no. È la B di Bitcoin. Ne rimangono 3 in totale? Sì. Uno sui loop. Tu sai cos'è quel codice? Uno e uno, vai a casa, devi andare. No, inciampa e cade giù. Inciampa e cade giù, dai, doppio uno. Inciampa e cade giù. E poi uno su Atanas, manca. E uno su... Chi c'è? Vai, Bardi, vai. Critici, come c'è sempre. 26 e 49. 17 e 17, ma è strano, eh? 3, 7 danni. Vai. 19 di nuovo, sì, è buonato. Intanto sei previso. Il golem arriva e entra nel mattatoio. Okay. Gli altri continuano a sciamare nel cortile. Sì. E Valdistro. Eri sta me. E ne manca qui sopra sono tre, no? Sono tre. Dai, sassiamo lì. Per il potere di Grayskull. Maledetti. Di cui uno sparito. Porca miseria, questa è la terza volta che faccio tre. Colpisco solo con uno. 15 danni. Porca miseria, due. Salute, ragazzi. Due. Bardistran, ci sono i nani. I nani. Non so, vado io. Ah, io dovevo spostarmi, sposto. Tutti sposti? Sì. Attacco d'opportunità di chi? Che non c'è più nessuno, gli altri sono con gli animali. Sono con gli animali. Perché due attacchi? Ce ne sono due. Perché ma uno non è con gli animali. Vabbè, sono tutti ormai lì. C'è. Ormai tanto. Però Royal Rumble. Qua attacco di A. Quattro mani. Li avete circondati con questa manovra tattica. Vergognatevi, Mets Greg! Vergogna, vergogna. Vabbè, io vado, calo la corda allora intanto. Allora, lui si è sono spostato, spostato per farti colpire. Apposta per farti colpire. Ti prego, Cadaco. Cadaco, sei un barbaro in ira. Sono due, mancano due, accettiamo. Mancano due più 25. Ma gli altri 25 arriveranno tra 4 turni. Intanto caro la corda, al prossimo turno li uccidete e andiamo. No, perché magari qualcuno vede la corda. Carichiamo all'ultimo la corda. Non la vedono perché. Vabbè, allora carico. Sei un barbaro in ira. Allora carico. Allora carico. Carica, dai, ti ho fatto anche lo spada. Ti ho fatto lo spazio. Devi essere un barbaro in ira. Colpisco. Ti ho fatto lo spazio! Non capisco più un cazzo. Ho fatto lo spazio! Ma la dovete rubare dalle mani la corda adesso. Ho fatto lo spazio. Non ce l'hai la corda, non hai l'Explorer. Ce l'abbiamo noi la corda. Ce l'ho io la corda. 13. Io ce l'ho la corda. Sì. Sì. Sta pensando all'arrocco di Re, che è un barbaro in ira. Cioè, sì, è un barbaro intellettuale. 20, quindi colpisco. Oh, ammazzali, dai, su. E adesso anche gli altri 24, ci facciamo? Andiamo noi lì. Andiamo qua. Attacca. Li carichiamo, gatto. Adesso noi teniamo questa posizione qua. 12. E poi piano piano. Come Aragorn davanti al Cancello Nero, li carichiamo. Andiamo qua. Li carichiamo qua. Noi. È rimasto mezzo comunque. Esatto. Mezzo. Quindi dopo Pac e compagnia bella. Pac uccide l'ultimo, dai. Patk uccide l'ultimo. No, Patk. Cioè gli animali intendo. No, Katka, adesso è il momento che evochi gli animali. Fai agli animali, fai uccidere l'ultimo. Dopo. Quando scendiamo. Adesso spara. Sì, ci sta. Non so perché ne tirati due. Basta, smettila, Giulio, non ha svantaggio solo perché lo tiri tu. No, perché ne tiro due, con i lupi ne tiro due perché hanno vantaggio. Io ne tiro due perché svantaggio. Comunque hai fatto uguale. Hai fatto uguale, quindi perfetto. È meglio che i cavalli li evochi quando è già giù. Sì, sì. Perché la scenetta in cui mentre si cala la corda cade e perde i cavalli non la vorrei vedere. Appunto, meglio che la carichi faccia da sopra. I constrictor attaccano. Perché sono con concentrazione gli animali. Sai che così quasi ci avrei la voglia. Beh, sicuramente. Quindi così non l'abbiamo provato. Anch'io, però come fa? Sei danno. Finito le cure. Abbiamo danni su quello, l'ultimo che non era. Chiediamo a Darci cosa farebbe. No, siamo perfetti per scappare. Che a lui. Sei danni, muore. Basta, abbiamo finito, basta, abbiamo vinto. Vedi se c'era già la corda, ma abbiamo voluto aspettare. E adesso? Adesso loro hanno un turno per arrivare. Perfetto. Ma se sono giù? Sto scherzando. Allora, adesso funziona così. Un constrictor che non fa un cazzo va qua. Diventa una corda. No. Due lupi si piazzano qua. Metti, okay. Sì, sì. E poi basta. Si mettono ai due angoli. Metà animali di qua, metà di là. Due. Beh, basta. Poi non so chi sta dopo. Poi scendiamo. Loro ancora sono nel Pat, fagli calare la corda. Pat, sarà no. Cosa ha fatto? Sta a me. No, sono impreparato. Cosa ha fatto, ha lanciato. Ma perché non hai fatto uccidere degli animali l'ultimo? Così fatti le volture. Non ci sono gli animali. Lui cosa ha fatto? Ma non sono ancora tutti le cortine. È servito anche il boltino. Ah, lui non ha niente negli andare, vero? Proprio niente. No. Peccato, perché sennò. Cioè, non ha segnato nulla. Quindi. Vabbè, ormai questo li ha già. L'unica cosa volendo che possiamo fare è fare un intralciare con Arci. Per rallentarli, se non ci serve. Cioè, il problema è che non ha segnato l'incantesimo. Ma l'altra volta l'ha usato, ti ricordi? Ha capito che. Ah, niente, dicevamo. Cioè, approvo la guaritrice. No, parola. Vabbè, quindi io entro. Niente, adesso siamo quasi fuori dal possiamo anche calarne due di colori. Calo una corda. Ok. E scendi, tanto l'interazione. Prendo il cadavere e scendo. Tu sei? Sì. Prendi il cadavere. Si anima e ti picchia. È il mio. Allora, è uscito. Intanto Kovacic al posto di Bakken. Era il giocatore S16. Insomma, era un 18. 16. Non è un giocatore da gol. Fa delle palle filtranti che vede solo lui. Non ci scherzerebbe in palla. S17. Servono niente i gol nel calcio. Servono niente con il calcio. Tottenham sta facendo un po' ok, dai. Già. 88esimo è finita. Già sta finendo 3-2. Cosa? Atalanta sta battendo 3-2 la Lazio. Stava rimontando ma si è fermata a 2. Però la Lazio sta attaccando. Ok, quindi arrivi dal tavolo. Calo la corda e vado dal tavolo. Prima calo la corda. Da parti opposte. Non interagirò col cadavere in questo turno. Quindi prima cali e poi vai in qua. Sì. Va bene. Dopo di te ci sono... Mentre noi stiamo scendendo le corde sentiamo Giulio che picchia Giulio. E poi darà fuoco anche a tutta la cosa. I mongrel. Così. Cosa fanno i mongrel? Che entrano nel mattatoio. Sì. Il golem è dentro il mattatoio, non lo vedete ancora, sarà per le scale. Sì. E Vardistran c'è la corda, no? Scusa, se no cala un altro, così scendiamo a coppie e facciamo prima. Sì, però chi sta usando la bella corda? Nessuno. Ma la useremo io. Scusami, se tu cali la corda e scendi, tanto l'interazione con la corda è gratuita. Sì, però calarla forse una pezza. Era già calata lui. No, dicevo calarne un'altra. Buttati lì sotto! Scalare! Ma sì, ma fai un athletics con vantaggio. Athletics con vantaggio? Oh, sì. No, sei giù. Pensavo così. Che scenda una corda e tutto. Poi sì, abbastanza in grado senza troppe complicazioni. Sono giù e c'è l'alcio. Puoi cadere direttamente in groppa all'alcio. Oh, come Zorro! Ovvio. Ok, li aspetto giù. Parti? Pat che Garrosh. Io scendo. Scende anche Pat. Anzi, prima scende Pat. Vabbè, uguale, tanto il turno stesso. Ha fatto questa evocazione di animali o no? È uguale. Scende, la fa. È uguale. È questo che volevamo fare. Doveva farlo prima, perché se si cadeva caso scompare con gli animali, si muore prima. Perché dovrebbe morire? No, dicevo. Tanto vabbè, vale che scompaiono quelli su, teniamo quelli su fino all'ultimo. Almeno fanno rumore, fanno cose. Tipico dei pitoni. Sì, scendiamo. Sono due lupi e due pitoni. Io suono la campana e scendo. Va bene. Taglio la mano a Giulio spara al pitone prima di uscire. Sono maledizioni. Uccidere i pitoni rimuove le maledizioni. Quegli animali. Dei corvi. Hanno paura. Atlas. Io ho suonato la campana, è successo qualcosa? No, non è successo niente. Prendo il cadavere. Allora, vediamo se riesco a fare il casino anche questa sera. Devi ridere e piangere insieme, però. Nel momento in cui tu tocchi la orrida creatura, la sua vera orrida, le sue sembianze, tipo. A parte che io adesso sono un cane, ho una faccia di cane con le branchie, quindi non so. No, allora è quando era bello. E le sue vere sembianze vengono rivelate. I tuoi occhi ti ingannano, perché quello che veramente giace su quel tavolo sono una serie di parti del corpo macellate, e tutte quante appartenenti alla fredda e grigia carne di una donna senza vita e che aspettano di essere cucite non... insieme. No, era un'illusione, una sorta di illusione. Ah, ti sei illuso da solo che fosse così. Ah, ah, non era lui. Abbiamo ma l'occasione di creare l'Irina perfetta. In realtà erano i pezzi di una donna maciullata. Ah. Saranno pezzi che ha usato per Irina. Abbiamo l'occasione per creare una coppia di Irina. Che cazzo ti illudi, Giulio? Ma che cazzo ne so, c'è scritto lì e... ti illudi. Non ho neanche tirato, non lo so. Non ti illudi. Ti prego. Vabbè, a sto punto... Non prendere i pezzi. Ti prego, non prendere i pezzi. Ti prego, non prenderti una donna. Sarebbe un vero peccato. Però senti una risata che riecheggia tra le pareti del della... Io in verità volevo prendermi un pezzettino da mangiare. Prendilo. Ah, è vero che sei un cane che mangia, che schifo. No, dipende, è fresco? No, è grigio. No, allora che schifo. È grigio e freddo. No, aspetta, però la testa è sciacquata. Cosa? Eh? Questi che sono qua li avete sciacquati o lavati? Io li ho lavati con detersivo. Non lo so, io non ho fatto nulla, ho fatto tutto scemo. Ah, sono solo quei tre bicchieri che ho portato di là. Non so, sono uno sciacallo, quindi un pezzettino lo prendo. Perché... Va bene. Che pezzo prendi? Che pezzo di tira di culo? Tira di culo. Pezzi di una donna senza vita, quindi... Prendo un fegato, dai. Ok. C'è un fegato. Ah, no, aspetta, il fegato schifo, non mi piace. Ma ormai faranno schifo se vecchi, prendi piuttosto... Sono uno sciacallo. Sì, ho capito, ma il fegato sarà macellato e prendi un osso con la carne intorno. Un femore. Prendo un femore. Prendo un femore, poi cospargo, prendo una boccetta d'olio, che dovrei avere. No. No, aspetta che siamo allontanati prima di dar fuoco a tutto. Da fuoco a tutto. La cospargo, do fuoco e esco. Ok. Sì, ma noi siamo ancora lì. Ma siete sotto, siete già usciti. Non è che faccio una bomba atomica. Fuori è deserto, non c'è nessuno. Lì dove siete voi non ancora. Cioè sono tutti rimasti dentro i, le bestie, non è che per caso che stanno facendo il giro sì, dal appunto, mattatoio. Tutte. Non è che per caso qualcuno è uscito. No, lo sapete. No, no, è uscita nel senso di qua, in questa zona non c'è nessuno. No, lo sapete. No, noi lì, siamo qui. Lì dove siete voi, in questa non zona non c'è nessuno. Nessuno. Altre zone, chi lo sa. Scusate, noi siamo qua. Sì. Siete lì. E noi per uscire dobbiamo andare qua. No. No, qui. Siamo usciti da lì. Perfetto, siamo già usciti. Vabbè, niente, io sono uscito dando fuoco a tutto. Sono a posto, sono una persona felice. Un fuoco al tavolo. Sì, a quello, che, quello, quello che brucia. È quello che tanto è tutto di legno questo piano. Di... Sì. Cioè, magari se c'è qualche catasta vicino. So. Lì c'era il giaciglio di Clovin con delle bottiglie. Bello, mi immagino. Giulio, dobbiamo andare. Non l'ho fatto. A piccolo fuoco e scendo. Butto la pasta e arrivo. Finisco di bruciare tutto e scendo. Sto campanellino. E poi scendo. Va bene. Però voglio scendere facendo lo sborone. Faccio una prova di athletics da maledetto. Prego. Vabbè, comunque ho fatto 6 più 7. 13. 6 più 13. Non è non così sborone. Però. Ma non ti fai neanche male. Bene, insomma, me l'ero pensata meglio. Peccato. È arrivato anche l'ultimo. Quando arriva giù sentite un fragoroso schianto che fa saltare una porta sulle paratie e vedete affacciarsi il golem dal parapetto. Ah, sopra, quindi. Okay. Ci sono ancora gli animali. Gli animali sono qua, sì. E si affaccia e vi vede e urla nella vostra direzione con versi gutturali e incomprensibili. Cosa fate? Tu hai preso? Ah no, no. Era bello se avevi preso la testa. Ah no, aspetta, il primo in bocca. Direi che prepariamo tutti l'azione di cavalcare nel momento in cui Patk avrà reso disponibili le cavalcature. Patk fa gli animali. Cavalli quando stanno. Noi prepariamo si può fare preparare l'azione di cavalcare. Sì, quando lui evoca i cavalli e salgo in groppa e cavalca. Sei d'accordo, Vest? Aspetta un attimo. Sei d'accordo? Abbiamo deciso di restare. Ma come restate? Sì. Sì. Il golem ci ha invitato a entrare e abbiamo accettato. Il golem ti ha sfidato nel singolare tenzone. E noi abbiamo detto che tu accettavi. E si è sperato. E si è bloccato il computer. Forse davvero. No, no. Forse no, è stato ormai Facebook. È una schermata grigia. No, Facebook forse. No. Cosa stai dicendo? No, lì lascialo. No, ritardiamo. Cioè, se ti va bene, prepariamo tutti l'azione che... Quando Pat che evoca i cavalli andiamo via. Ah, sì, per forza. Io sono sull'alce. Ah, è vero, tu puoi sedere sull'alce. Allora sì. Ah, c'è il golem che si è affacciato ai bastioni e ci sta guardando. Da dove? Da su. Qua. Esatto. Ha sfondato la porta lassù ed è lassù che ci vuole. Ed è lì che va... Ma io sto facendo... Ah, brutta storia! Ma cos'è, un D8? Devo tirare un D8 per vedere quanti cavalli... Sì. Boom! Cosa hai fatto? Ho tirato il D8 per vedere quanti cavalli, sono un cavallo. No, sul serio. Quindi abbiamo un cavallo e un alce. Sì. Vabbè, e altri 7 animali tra cui possono esserci delle... Ah, okay. Vogliamo il caprone. Aspetta, il caprone, da quanto? Esatto. Di un quarto? Un quarto, sì. Possono esserci altri lupi, altri caproni, altri serpenti. Lupi non si cavalcano più. Sì, no, in realtà anche sul cavallo ci sono state le persone. In realtà va bene. C'era uno, cavallo. Adesso evo con le cavalcature. No, ok. Vabbè, abbiamo le cavalcature, andiamo via. Fine la storia. Andiamo a guardare cosa c'è da un quarto. C'è il montone. Ha tirato il D8 per vedere quanti cavalli... Uno. Sì, ha fatto uno. Beh, uno degli altri sarà comunque un cavallo, no? Per la legge dei grandi numeri. Abbiamo un alce, un cavallo, poi un po' un montone. Vabbè, io cavalco 2 serpenti giganti. Ma devono essere di un quarto o possono essere anche più di un ottavo? Un quarto più piccolo. Quindi anche un ottavo va bene. Sì. Sì. Ma perché non abbiamo... No, cos'è? Il mastino. Io lo cavalco. Io cavalco un mastino. Chi se ne frega, andiamo. Beh, cioè, mi se ne frega. Abbiamo le cavalcature, bastava un cavallo, basta. Ma può diventare un orso, andiamo. No, non serve. Abbiamo le cavalcature, così siamo, rimaniamo uniti. Abbiamo le cavalcature, cavalchiamo! Quando andiamo in città, però... Forza, verso il mattatoio! Avvisiamo tutti, cioè diciamo, fuggite, arrivate. vabbè, fuori dalla città. Combattete! Fuggite! No, gag a parte, no. Ora organizziamo una verso la casa di Strad. Tipo, proviamo ad andare dalle guardie e organizzare. Da fare. Beh, dai, sì. Organizzarci per sconfiggerli, per fermarli. No, cioè noi dobbiamo riposarci, non siamo in grado in questo momento. Che accordi avevate con Barrett? Quante sessioni saranno passate? Due. Che accordi avevamo? Che dovevamo vedere qua com'era la situa? E poi? Poi devi beccarci. Ah, lui doveva controllare la situa dall'altro lato. Parte. E poi beccarci. Ci ribeccavamo all'incrocio. Quindi noi andiamo all'incrocio, sti cazzi. Vabbè, però. Non è che poi. Allora, noi abbiamo fatto il nostro. Come al solito. No, ma infatti io tipo. E questa è già la seconda volta che in questa città facciamo il nostro, vorrei far notare. Io andrei in giro per la città dicendo che stanno tornando i mostri. Mm-hmm. I mostri sono tornati. Tra l'altro. Vabbè, sono meno di prima, se non altro. E... Sono solo 25. Però non abbiamo sforbiciati. Quasi la metà. Allora, quindi tornate in città. La situazione è. Come l'avevate lasciata, in sì, cui vabbè, sono lì disperati, in cui andando, cercano di riparare. Io tipo grido. Brace yourself! Presto! Uscite dalla città, tornano i vostri, tornano! Allora, faccio un persuasivo. Andate verso le strade piene di lupi mannari e di vampiri! Scappate! capito. Ma che cazzo che mi fare allora? Delle due barricatevi in casa. Preparatevi a morire! Sì, forse è l'unica cosa. Recitatemi la scena, fate un po' di rumore per attirare la persona. No, ma noi andiamo fuori. e poi tipo mentre nella strada, così possiamo al massimo passi cavalcando dicendo scappate morirete tutti, sì. E poi esci, sì. Ciao faccia di cazzo, sì. Io urlo barricatevi in casa, ancora più scappate, barricatevi in casa. Cioè, o andiamo tipo da giocate a chiapparella, non c'è neanche più un capo qui. C'è la moglie del borgomastro. Esatto. Il borgomastro si è suicidato e la moglie è in condizione. E la moglie sta per farlo. O se no organizziamo tipo la resistenza. Secondo me ha senso organizzare. Secondo me ha senso metterci poco distanti, cioè scendere dalla collina. Cioè, magari loro non arrivano. Quello per forza, perché altrimenti. No, scendere dalla collina, allontanarci, entrare in città e poi fermarci. Vabbè, e comunque ci mettiamo. Sarà rimasta qualche guardia. Comunque, perché ridi? Secondo me è meglio uscire tutti. Le guardie che fino hanno fatto. Tutti. Dovete decidere tutti cosa fare. Allora. Secondo me non siamo in grado di. Cioè, ora che siamo in campo. Vabbè, però è come dire città muori. L'abbiamo già fatto. Chi se ne frega. Cioè. Beh, no, abbiamo provato. Non abbiamo così civili di là. Anche qua abbiamo provato, nel senso, se riuscivamo a sconfiggere, potevamo fare di questa la nostra fortezza. In questa città c'è il caos, ormai nessuno governa più, fanculo, andiamoci. In questa città, cioè, non possiamo più fare niente. Io li avviso, quello che sto facendo. Sì, sì, se avessimo sconfitti, potevamo creare poteva essere la nostra fortezza. Quello che voglio capire è come li avvisi. Cioè, possiamo sempre tornare. Non ho tempo di andare da ognuno a buon modo. No, non da ognuno, però. Sa che per adesso no, puoi andare nella piazza. Però stanno già sgranoccando le cose. Puoi radunare una folla e fare un discorso. Nella piazza, oppure passare cavalcando dicendo: non è questo il giorno in cui vivrete. Decidi tu come lui, fare. No, vabbè, allora, se posso farlo, sì. Ma lui dice agli altri mentre sgranocchia un femore. Che cosa? Sempre devo urlare in mezzo alle strade, tipo presto, tutti in piazza, arrivano i mostri, tipo, che cazzo? Puoi fare così, raduniamoci, sì, in piazza, radunarli, sì, e prenderti il tuo tempo per, sì, insomma, arrivano i mostri, radunatevi in piazza, così sarà più facile, sì, esatto, come me la vedi. Per come me l'avevi detto, era passando a cavallo, urlo di stare, di andarvene, e poi vado via. Cioè, proprio seminare il panico, esatto, totalmente. Sono due cose un po' diverse. La mia idea era creare il panico, senza andare. Se invece arriviamo tutti. Se tu ritieni che sia disagio per loro, non capivo. Io inizio a fare gli ululati di un coyote. Ma quanto ci mettono queste radunarsi nella vita? E se invece, vabbè, diciamo, le donne e i bambini barricatevi in casa, gli uomini valorosi che vogliono difendere la città vengono con noi. Ma noi non difendiamo la città. Abbandonate i più deboli. Noi potremmo lasciarla sta città e fregarcene. E quello che facciamo. Hai detto raduniamoci. Io li voglio far andare via. Come fai a far evacuare una città in pochi minuti? Come fai a far evacuare una città in pochi minuti? Io non ce la faccio, muoio. Neanche io. Infatti, 2, 3, 4 moriamo. Allora che cazzo ce ne frega di avvisarli? Andiamo via e basta. A me interessa perché sono. Ma io sono buono. Volevo solo chiederti la modalità con cui Vabbè, allora, se riesco, provo a radunare quelli che provo in un punto, gli dico: rega, recitami il discorso che fai. Scusami, chi può, la faccia impanicata. Dalla folla comincia. Abbiamo provato a sconfiggere i mostri, ma sono troppi. Purtroppo sciameranno di nuovo in città a breve. Abbiamo liberato i posti. Li hanno dirati contro di noi. Ci hanno condannati a morte. Donne e bambini che mettono a rocco. Che paura. Così. Continuano a uccidere 24 mostri. Ci sarà. Dice purtroppo. Volete vedere un vero rogo? Ve lo faccio vedere io il rogo. Purtroppo. Nel nome del Signore. Purtroppo i mostri prima o poi torneranno, dovete assolutamente abbandonare le vostre abitazioni. No, prima o poi li vedi, stanno arrivando. Non prima o poi. Per adesso non li vedete che vanno, sì, anche perché è ancora giorno. Prendete qualcosa al volo e fatevi mangiare dei bambini. Con panino, noi fuori dalla città. Là fuori sarebbe un suicidio, non avremmo nulla, nessun ma anche qui dentro. Quindi. Anche qua è un suicidio. Vabbè, possiamo portare dalla vigna forse. Troppo. Quanti sono? Dovrebbero essere una sessantina. Cioè, ragazzi, già a fare il tragitto qua a Vigna si incontrano 25 lupi mannari. Cioè, onestamente. C'è qualcosa, c'è un posto sicuro con sposta? No. E allora, rega, arrivano. Prima opzione, fuggite, vado con il cavallo e fuori. Oh, ma avete rotto i coglioni. Buona, via, andiamo fuori. gli era donati per dirgli no, no. Buonsenso, oh, cioè, allora se siete bravi va bene, andate e combattete, ciao. Oh, che cazzo devo dire, oh, una certa avete rotto i coglioni. E fuori non si può andare, e dentro non si può stare. E i vostri sono 150 milioni, e c'è strada, e lupi, è buona, Suicidati, ammazzati, tieni, ti do la pistola. Cazzo vuoi che ti dica? Ma solo fatto un'obiezione. Come sei fermato? Bravo, un'inflazione, è arrivato un scienziato. E quando eravamo qua ci rompevate i coglioni, quando siamo fuori ci rompete i coglioni, e vaffanculo, oh, morite, ma andate a mangiare, porca troia, no, mi sono rotto, basta. Una quarantina, esatto. Di, scusa, di uomini, dai, vedete voi, se volete di darvi uomini una... adulti, più uomo, donne, bambini. Cioè, se volete avere una chance, venite con noi adesso, se no state qua e barricatevi in casa. E voi dove state andando adesso? Usciamo fuori, perché qua c'è la morte. Fuori. Anche fuori. E allora state qua, però barricatevi, ciao. Scusa. Tutto questo, neanche per no, questo in sella un alce ossuta. Sì, vabbè. No, scheletrica proprio. No, ho capito, ha una certa buona. Cioè, io capisco anche, okay. Anche ragione. Però lui sta scaramacchiando il suo film. Io più di avvisare non posso fare. Ce l'hai, dico, ce l'hai un riposo lungo? Ce l'hai un riposo lungo da regalarmi? No, non ce l'hai, allora stai zitto. Possono ospitarvi in casa se le ho chiedete. Ma adesso sono un po' preoccupati col fatto che li avete. Se ci nascondiamo. Va bene, dopo averli incoraggiati in questo modo, cosa fate? Niente, andiamo fuori, fuori, buono, loro faranno quel cazzo che gli parla. Ah, io vi dico che secondo me dovremmo tornare prima o poi all'abbazia. Se no, è un posto così piacevole. Se, no, se, volete, se non brucia del tutto. Cioè, se volete, stiamo qua, però io secondo me non è... No, cioè, troppo lontano, cioè, le possibilità sono troppo poco tempo. Le possibilità sono due: o aspettiamo, no, ma con calma, perché ha visto una cosa. Vuoi tornare? Cimitero. Allora ci riposo, facciamo il riposo lungo qua. Torniamo adesso. Dice prima o poi dovremmo tornare. Dice una cosa lungimirante. Quella che sta dicendo lui. No, allora le possibilità sono: o ci riposiamo, cioè magari potremmo portare anche Kevin. E torniamo. Che Kevin? Cioè, secondo me. Il problema è che questi qua adesso escono fuori e cominciano a mangiare tutto quello che trovano. Vabbè, chi se ne frega. E noi non abbiamo la forza di. Beh, potrebbe Arci evocare animali che loro mangiano. Sì, ma ormai si slot li ha finiti. Cioè, allora, noi in questo momento non possiamo affrontarli. Quindi, o ci barrichiamo da qualche parte, speriamo di riuscire a fare il riposo lungo e poi dopo forse li affrontiamo. No, oppure, rega, con un riposo, no, con tutti un riposo lungo fuori, tutti fuori, buona. Poi c'è tanto, voglio dire, anche se rimangono lungo, qua, la facciamo se non li mangiano i mongrel, li mangeranno i lupi. Cioè, che cazzo cambia? Con un riposo lungo ce la facciamo abbastanza facilmente. Se vanno fuori, magari possono andare a Vattergard e sperare nella protezione di Vattergard. Ma dici mostri o no, persone, anche mostri? Ah, no, perché? Deulofeu? Non lo so, io li avviso. Va bene. Di avvisarli non ho scelto. Ok, tu quindi gli fai questo discorso incoraggiante, poi cominciate. Non è incoraggiante, non vuole essere incoraggiante. Vuole essere. Cioè, ho capito, non ci sei gente che può combattere. The Winter is coming! No, ci sono 40 commoners, cioè. Sì. Vabbè, usiamo come carne da che sono i veri minion, non quelli. Perché quelli non sono dei cazzo di minion, sono dei cazzo di mostri di GS13 l'1. Quindi. Più un gol in cui GS150. Quindi. Ma vedo questi commoners avranno miliardi di armi magiche, quindi figurati che. No, che hanno delle E invece, no, ma io ne avviso, boh, mi sono rotto, buona. Cioè, ok. Cioè, vi ho detto una, l'avevo detto io all'inizio cosa fare, non l'avete fatto, l'avete detto la terza, seconda volta non l'avete fatto, la terza non l'avete fatto, la quarta siete morti e vaffanculo, ciao, buono. D'accordo. Una certa, tutto brucerà, i discorsi epici degli eroi, ho capito, buona, ne ho fatti 15 di discorsi epici dall'inizio dell'avventura, non mi ha cagato una volta, è sempre data di merda, sì, alla sedicesima buona, cioè ciao, l'abbazia brucerà, la città brucerà, tutto brucerà. No, gag a parte, non posso fare niente. No, no. Cioè, okay, io ti avviso, te se vuoi rimanere a essere mangiato, bene. Se no vai fuori e speri. Sei stato gentile a dirlo per me. Se no vai fuori e ti accampi fuori. Che cazzo devo dire io? Stato gentile a dirlo. Vabbè, puoi anche avvisare la serie. Beh, trovate un posto sicuro. È fatta così, provate a barricarvi o se no uscite. No, noi, cioè, se volete la nostra protezione, noi usciamo adesso. Questo è il discorso. Se invece volete andarvene, se invece volete stare qui e farvi mangiare, magari... Mettete, date un bavaglino a quelli che arrivano, che cazzo mi devo dire più? No, nel senso, buona, cioè non ci sono i due di qua, di là, potrebbero mangiare. No, va buona, fine, ciao. Dai, non fare così. No, dai, che a parte, seriamente, cioè, sì, nel senso, è inutile che mi fai le opzioni, le obiezioni. Buona, sì, ciao. Loro te le fanno. Eh sì, io dico ciao, nel senso, ciao. Ciao. Sì, sì, ciao. È assolutamente legittimo. Vedete, ma fate come volete, io vado. Se volete la vostra protezione, venite con noi adesso. Se no, barricatevi in casa e pregate. Che vi devo dire? Io quando mi accorgo che la discussione è inutile riparto. Infatti, te lo ripartiamo anche noi. Cosa sta tirando? Secondo me? Persone che muoiono. Percentuale di probabilità che il fulmine di Strad ci colpisca, che appare di nuovo. Oh. Ok. Un vecchio, mentre ve ne state andando, livido di rabbia, comincia a sbraitarvi contro. Lo uccido. Ma posso per una volta essere d'accordo? Cioè, vi lamentate anche. Cioè, lo carico col cavallo proprio. Va bene. Posso può dirti prima quello che no, dire. No, carica Giulio. Sì, no, vabbè. No, può dirlo. Okay. Siamo distratti comunque. Sto sgranocchiando l'osso. Con la sua barba bianca e quei quattro denti. Qualcosa, una maledizione. I quattro denti che gli rimangono. Già maledetto, quindi ormai in bocca comincia a sbraitare contro di voi dicendo: è stata tutta colpa vostra. È da quando siete venuti voi che tutto è andato male. Che è morto il borgomastro. Ma è giù di apposta. Siete voi folli che vi siete affidati folli. Alla folli. Smettila di dare dei folli alla gente. È vero, cazzo. Se avevano il cazzo di abate folle, dai. Eravamo al sicuro qua dentro. Mi avvicino lentamente. Adesso, sì, tutti al sicuro. E adesso moriremo tutti. Ci avete tolto la speranza. Che palle, tutte le città ci dicono le stesse cose. Che palle, oh. Mi avvicino lentamente. Lentamente sul cavallo, io sono praticamente... Come, non carichi? Sopra. Sì, sì, sopra, lui continua a dire... Mi tolgo il cappuccio. Dovete salvarci. Dovete salvarci? Sì. Ti togli il cappuccio e vedono la... Purtroppo non la possiamo. Tue sembianze. Vedono la faccia di quello che ha ucciso il figlio del borgomastro. No, perché è fastidio, diciamo, rimane, ah, no, è rimane basito. E in quel momento arrivano tre saccagnate. Allora. Fatto dire, vabbè, c'è il paladino. Uno è mancato. E questo no, 10 più 17. Ok, gli ficchi la... No, aspetta, c'è un terzo attacco. Vabbè, basta, perché no, non c'entra. Ah, 7 più 3, 10. Uffa, no. Dai, catta! Quanta classe matura. Catta! Vabbè, tu gli ficchi le spade nel corpo, nel petto. E quello alzi. Con le sue ultime parole dice: sei uno di loro, avevano tutto in mente all'inizio, sono dei mostri. Che beh, però quest'ultimo fiato è insomma, ne aveva un po', esatto, era un po' perché ho tirato male, però, esatto. Questa scena manda in visibilio la parola di Giulio. Getta la folla nel caos e in preda alla rabbia. No, tirate l'iniziativa. Che bello vantaggio di iniziativa. Doppio 3. 3 anche per me. 18. Che poi onestamente almeno la mia azione sarà andata. Cazzo, se ah, bene, no, infatti è vero. Ma ce ne andiamo, che cazzo vuoi no, fare? C'è solo un modo per salvarli. Uccidere. Monderemo le vostre anime. Quel meme dei Joker sta diventando no, sempre più meno. Ma allora, non si può essere buoni, dai. Buoni, però coglioni no. Cioè. Adesso. Ho capito, ma che devo fare? Seguimi, che devo fare? Vai, Bardistra. Prendi la pillola blu, guarda quanto è profonda. Gente che fa un PG caotico malvagio per uccidere chi che sia senza ripercussioni. No, gente, cioè, che ammazza senza troppi pensieri anche il ciabattino del villaggio. Con un paladino legale. No, non ho più la mia faccia, quindi niente ripercussioni, insomma. Sono maledetto. Ma no, scusa, mi ha rotto il cazzo, ma buona. Vabbè, però mettiti nei loro panni, effettivamente vedono un mostro come quelli che stanno per arrivare, sembra proprio che siano in comune. Mi sa che con gli altri non sono stati così coraggiosi come sembrano essere adesso, eh? Vabbè, ma tanto c'è coraggiosi, ti tirano due sassi, cosa vuoi che facciano? Sono incazzati, adesso hanno delle armi magiche. Adesso non ho capito, cioè. Vuoi vedere che hanno invece armi di usare la loro cosa per provare a... Ma se tu facevi un discorso che magari li convinceva, invece li hai... Siamo arrivati lì, c'erano 800 mongrel, non mi sembra... Non lo sanno. Quando li ha mangiati però uno a uno, sì, mi sa che non ne hanno uccisi tanti. Magari non, non sono usciti tutti i mongrel, non lo puoi sapere. Però quello che voglio dire è che non ne hanno uccisi tanti, si vede. No. Quindi a quanto pare sto gran coraggio non l'hanno avuto. Ma non è coraggio, che non sono in grado. Magari ci hanno provato e sono anche morti alcuni. Ma probabilmente no, perché almeno non saranno stati 150, ma 10, cioè ma 20 magari invece di 150. Allora, questi qui. Ok. Non so chi è sto negrone, ma mamma mia che sciabattata, se la dava a sinistra era gol. Era un 3 contro 1, dimmi che sei ancora qua, sbagliato col subito grande, quanto cazzo di danno fa. Armi 1d6. Perfetto. Ha fatto più di me in iniziativa. Sì. Poi hai fatto 18, no? Sì. Sì. Bipolari. Avrebbero potuto battere i mongre. No, sono tirato bene. E, alcuni di loro, visibilmente arrabbiati, prendono le loro accette e cominciano a lanciarvele addosso. Oh, che paura. Allora, tra l'altro, una volta che avevano tanti danni, in realtà. Tra l'altro, oddio, effettivamente non siamo messi bene. Una volta che l'hanno usato, non ne hanno più. Non so quante ne hanno. Sì, già hanno una faretra di accette. Cioè, già che se hanno un'accetta a testa, è tanto. Intanto te ne arrivano quattro addosso. Diciamo che il fatto di che Giulia abbia ucciso. Quanti punti ferita abbiamo? Perché va bene ridere. Ma... Allora, beh, io ho ancora classe armatura 18. 17 ti colpisce? No, 18. Ok, quindi si infrangono sul tuo... Anzi, visto che è uno dei più uno nella mia classe armatura, perché ho due spade, le spade. E deflette i colpi. Poi, altra 4 su Vardistran, che ha rotto il cazzo con i suoi discorsi. Veri. La verità fa male, non dovresti saperlo. Che usa 16. Sono follia. Passati meno di 16 minuti? Di 10 minuti? Sì, comunque ti manca. Da 18. Ah, sì, erano. No, sì, sì. Poi cosa c'è lì? Io gli dico che questo attacco è una follia, così. Beh, no, avete avuto prova che non sono proprio sani di mente. Uno ti colpisce, scemo. Oh. Sei danni. Sono ancora in ira. No. 5 punti ferita. Se mi attacca un altro mi butta giù. Poi come riuscire a far uccidere? Ti rimane lì Pat. Che cos'è adesso Pat? No, un nano. Su un cavallo? No. Come siete messi? Siamo seguiti anche da altri. Io sono sul mastino. Io sono su un mastino, loro su un cavallo, lance, l'alce, patto, o su un animale, se c'è un altro animale, o se no sull'alce con vezzo. Tre un cavallo non puoi prenderlo. No. Tre asce su patto. Che classe armatura ha patto? Uccisi, 14. 14? No, comunque era così la vista dell'altra volta. Una volta era più rosso, mi ricordo. 16. Ma parlo di settimane. Viene colpito da tre asce. Viene colpito da tre asce. La prima ascia gli fa 4 danni. Quando lo racconteremo ad Argi sarà felicissimo. Ma è vero, c'è questa cosa di concentrazione. Passato. È vero, cazzo, no, perdiamo i cavalli se la lui viene colpito. La seconda ascia gli fa 6 danni. Cioè, potrebbe non passare la... Mamma mia, però ti ho dato un attimo di buono. L'ultima ascia gli fa 3 danni. Un brutto presentimento. No, vabbè, aspetta, 3. Devi fare 10. Cazzo, 9. Ah no, questo sono io, scusate. Eh no, lui lo passa. Lo più 7. A cavallo, bro. Minchia, che rischio. Ok. Saremmo stati a piedi in mezzo ai popolari per mongrel che arrivano. E ormai scarichi di tutte le nostre energie. Bene, Carlos. Ah, comincio a correre via con la mastina. E... Patk. Sì. E poi è Atan, sì, sì. E Vardistan? Quando aveva fatto? No, anche lui. Sì, è vero, non l'avete tirato. Secondo me Patk spara un boltino. Vero, cosa no, mi via, manca, no, mi no, manca l'iniziativa via. Di Patk, ma di fare. 17 più... Ah, ok. Bisogna andare per perdere cavalcatura. Agiva anche prima di gara. Sì, esatto, anche perché rischiamo di sì, perdere le cavalcature. Patk va via. Patk è con uno di voi, quindi va via. Ah, scusa, come? Non so. Tocca a voi due. E allora io gli dico folli. Basta. Tutto questo è colpa della del folle abate che voi avete seguito fino ad oggi. Non l'avevo mai visto. Andate, andate in pace se non volete che anche la nostra ira si scagli su di noi. E faccio un persuasion. No, scappa, che te fai? E poi scappo. 15 e poi scappo. Poi vado. Andate a rintanarvi nei vostri buchi. Io vado via cercando di ammazzarne il più possibile sulla strada. Cioè, cercando di passare vicino. Dai fuoco alle zampe e alla coda del cavallo, così lasci una scia di fuoco. Per ucciderli. Tanto il cavallo è finto. Mica so. È finto. Vabbè, sì, tanto deve svanire comunque. Funziona. Sì, hai ancora dell'olio. Perfetto. Sì, sicuramente. Bagni il culo del cavallo. Io l'olio lo produco. Sì, ma se l'ammazza mentre è lì comunque scompare. Allora. Ma non muore per un po' di fuoco sulle chiappe. Sto cercando di pensare a come puoi fare quella cosa. La cosa cioè, che se ci sono dei popolani da dove sono io sì, all'uscita, che mi sono spostato verso il vecchio. Niente, dico. Ah, c'ero, tu sei a cavallo, vecchio. Niente, attacca a cavallo. Mi avvicino, passa. Faccio movimento, attacco, movimento, attacco, movimento, attacco. A seconda di quanto mi tira il culo verso l'uscita e gli tira molto il culo e gli tira molto. Il discorso è questo, cioè, sicuramente di popolani vicini ce ne sono, però per andare ad attaccarli no, non vai verso l'uscita. No, no, lui vuole andare verso l'uscita. Se verso l'uscita non c'è nessuno verso l'uscita, beh, magari per le strade trova un popolano che non sapeva anche niente. Un bambino, non anche un bambino lo travolgo, non è un problema. No, non uccidere altri bambini in questa città. Li hanno rinchiusi in casa i bambini, viste i precedenti che sono successi ultimamente. Vabbè, sparo una balestrata e me ne vado. Okay. Però non c'è lo stesso gusto. Lo so. Dai fuoco alla freccia. Dai fuoco alle case! Basta, secondo me. Sto vicino delle case. Siete nel mezzo del villaggio, le case ci sono sicuramente. Basta, posso fare una torcia a piccare fuoco le case? Ma sul serio, la mia non ho battuta. Non devi darmi l'idea. Oh mio Dio. Sì, puoi farlo, usi la tua azione però. Sì, sì, non attacco. Mi piace lui. Salvatevi, rinchiudetevi nelle vostre case. Uso l'azione, prendo una torcia, la accendo e poi mi muovo verso una casa e dopo. È colpa mia. Prima voleva portarli fuori dalla città dove loro sono convinti di morire. Poi voleva radunarli in piazza dove sono convinti di morire. Poi gli dice di chiudersi in casa dove lui gli dà fuoco. Ma poi scusami, posso dire una cosa? Ma questi quando mai si hanno visto? È colpa vostra. Ma che cazzo sei? Oh! E dopo il nostro arrivo in città è successo un po' di casino. Ma quando ci hanno mai visto sti qua? Beh, quando siamo arrivati uno di noi... Ma lui non sa neanche chi sia. No, però sanno che il nostro adesso è lui, in teoria. Quando ci hanno mai visto? Oh, quando siete venuti qua e avete soggiornato, quando siete entrati, sì, la prima volta. Cazzo di abati, cioè, no, avete soggiornato dalla forza, abbiamo parlato dalla con avete attraversato nella tutta fontana. La città, avete parlato con la gente del posto? Ti conosco. Sì, si dà per scontato che quando soggiorni. Ok, tu città, quindi vai ad appicciare fuoco, quindi questa cosa... Cazzo vuole. Scuote gli animi anche di quelli che... Ma la casa giù, dai. Erano titubanti ed impauriti dalla vostra presenza. Però tu gli hai detto rintanatevi nelle vostre case. Ho fatto comunque 15 di persuasion, cioè infatti, sono dei comuni. Sicuramente si chiuderanno in casa. Se l'hanno subito dopo non gli avesse bruciato una casa, magari poteva fare qualcosa. No, ho capito, sai, ho capito che commoner effettivamente avrà un una sua volontà di 150, perché però... Beh, infatti è inutile che io faccia discorsi. Mi hai detto di rinchiudersi in casa, poco dopo il tuo amico dopo vuole che poi essere convinto. Ma voi vi siete allontanati, cioè non è un problema. Ma io infatti basta, adesso devo prendere uno a caso, lo ammazzo, dico se non fate come continuo a farlo su tutti, perché è l'unica cosa che capiscono. No, ma adesso scherzi a parte, dall'inizio dell'avventura che io faccio dei discorsi nessuno mi caga, poi fanno il contrario e succedono dei casini, caso strano. Va bene. E quindi quelli che hanno lanciato le asce le vanno a raccogliere e quelli che invece titubanti corrono verso Giulio e gli lanciano addosso le loro titubanti sti cazzi, cioè Mongrels arriva, oh mio Dio, dove arriviamo noi? Oh, uccidiamoli. Spero di aver piccato fuoco in una casa con dentro qualcuno. Io spero che o entri dire c'è nessuno. Ah, vabbè. Allora, quanto fa? 15 sono. Giusto che muoia, dai. 3 a 3. Infatti non l'hai visto, eh? 92esimo, immobile. Che corrono verso di te e ti lanciano le gol. Dash. Sì. Queste vengono direttamente su di te. Forse sì, questi sono due. Tre danni. Beh, in realtà, chi sta lottando per la Champions, questo pareggio va solo che bene. Questi vanno addosso al cavallo. Quello l'Inter ormai. Quanto è classe armatura? L'Ambrosio fuori un mese. Lotta solo per la Champions. Sì, si fa almeno due partite. Giocate per lo scudetto, ma è scudo. Scudo. Secondo me se lo butti non arriva lo scudo quest'anno. C'è il PDF qua, vado in sommario. Spero che c'è l'appendice dei scudo. Affanculo. Sommario. Cioè è pazzesco, il primo tempo finito 0 a 3. Secondo tempo recupero. Che cavallo è? Riding horse. Sì. 10. Classi, ci hanno colpito il cavallo. E alcune asce vanno su di lui, altre vanno sul cavallo. Allora, queste due asce vanno sul cavallo. Più 2, quindi 8 e 5 più 5 danni. 8 più 5? Mm-mm. 13. A 0 mi cavallo. Ok. Il cavallo viene accettato e scompare in una nuvola di farfalle. Quindi Giulia a piedi. Pronto a uccidere tutti. Vabbè, può salire. Buono, non lo vediamo ormai. Non c'è più niente da cavalcare. No. Tutti Giulia è rimasto indietro. Questi erano altri 5. Su Giulia ha matato tutti i cosi. Il problema è che. Sì. Esatto. È stato grazie a noi che siete morti. Arriva altre 5 asce ti arrivano addosso. 17 mi becca. 17 ti becca. 4 danni. Ne rimangono 4. 16 mi becca. 6 danni. Garrosh e Patk. Io continuo ad andare. Noi non ci accorgiamo che Giulio rimane a piedi? Chiaramente. Non so se ci sarà qualche altro animale, perché averne evocati 8, se c'è qualche altro animale in giro che ci segue. Riesci a prendere un altro animale o no? Non so, ma viene cazzo. Lì sono controllati da Patk, che quando sei. Che segue te. Quindi gli animali seguono lui. Se lui va animando un animale, allora continuiamo. Se no torno indietro io e non so, prendo anche Giulio su, siamo un po' tanti. Scusa, Arci può scendere e prenderci un animale. Io torno indietro e parlo Giulio. Allora, Arci scende e sparo in orso. E uccidevo. No, però poi Arci potrà trovarsi in cavallo. No, Arci scende Arci e diventa un orso. Ma scusa, diventa un cavallo, perché è un orso, un cavallo. Ah no, però si diventa un orso per gli animali. No. Scusa, io diventa un cavallo. Giulio. Oppure Arci scende e va a prendere lui da cavallo, guarda. Insomma. Sì, guarda. Ma no, perché vado a prendere Giulio, perché così magari evito che uccida altra gente. Ok, quindi tu arrivi da Giulio e lo fai salire. Sì. Gli chiedi di salire, deve accettare. No, no, gli dico muoviti. Va bene. Lo prendo per la collotta al momento. Ma quell'orecchio, quell'orecchio. Uccidere! Cosa fai tu? Salgo. Ok. Diavolo. Adesso sparo un guardare la resta. Ok. Prova a fermarlo. Vabbè, ci sta anche per coprire di tirare. Questo io questa volta becco. 4 più un boh qualcosa. Cos'è? Più 2. 6 danni. Quindi muore. Ah, okay. Spiace. Quelli che prima avevano recuperato le asce adesso ce le hanno e ve le tirano. Ancora. Oh, guarda come sono diventati dei guerrieri sti qua, eh. Ti stanno tirando da sole cose, no? Sì, chi ci voglia particolare. Non le abbiamo visto. Bravi. Non lo sai, magari l'hanno fatto, poveretti. Le non abbiamo visto nessun cadavere di Mong. Non abbiamo visto un cadavere di Mong, forse uno. Ma neanche a noi ci hanno ucciso. Erano tutti lì con la pancia piena. Oh, che bello, mangiate. Nessuno che si dibatteva. Tipo, oh, sì, mangiami. No, magari hanno provato a ostacolarli, ma non ce l'hanno fatta. Come stanno facendo con noi. Tipo, dai, mangiami pure. Tanto non è, è colpa di quegli altri schifosi. 5 asce su Beth. Vai. 18. Due ti colpisco. Però sono 8. Ah, ma se sono così forti, andiamo. Ma venite, andiamo a combatterli. Che problema c'è? Sono 15 danni. 2 asce. Come 15 danni? Ho fatto 5-6 più 4. Più 4. Più 2. Più 2 dei commoner? Hanno la. Hanno più 2, il loro attacco è più 2 ai danni, che è poco. I commoner? Sì. Più 2 danni? Sì, hanno 16, hanno 15, 14 di forza? No, è proprio nell'attacco c'è scritto un... No, no, vabbè, ma più se 2. Sono così forti, cambiamo. Cioè, venite che andiamo e ammazziamo. Ma no, possiamo andare, ho voglio, capito, voglio ma che mondo è? Scusa. Cioè, noi siamo i più deboli. Dov'è il... Io se tiro un'ascia non faccio, non ne sono più. Io più 2. Come fanno ad avere il più 2 a colpire? Anch'io un più 2. È la destrezza. È la destrezza, non lo so. Allora hanno 14 di destrezza. La mia stessa destrezza. Ma indipendentemente da quanto hanno. No, un comune era 14 di destrezza. Non lo so, ho letto più 2 danni. Dipende da che bonus, da che cosa gli dà questo bonus. No, per carità. Vabbè, dai, tira le altre. Mi chiedo come facessero i monger da tirare su di me. Su di te? No. 19. No, mi sembra una roba assurda. Che cazzo è sta roba? Nei vecchi di edizioni forse l'armatura dell'alce umano meno. Sì, esatto. Poi in base alla sua classe, diciamo, alce, alce. Cassa armatura. Vabbè, ma l'ammazzano, è inutile neanche che tiri, fanno 40 danni l'uno. Cioè, l'hanno beccata con almeno 4. Sì, l'ammazzano, vabbè, per forza. Ah no, a 10 l'ammazzeranno, beh, per forza, fanno 40 danni l'uno. Che cazzo di comune è, scusa? Magari ho visto male, ci controllo, però cioè. Mi sembra di aver visto più 2 danni. L'avevo detto che più 2 a colpire. Sì, adesso parte tutto. L'avevo visto male, scusami. Cioè, vuol dire che hanno 14 di destrezza. Sì, cioè, quello non è detto, però... Sì. Avevo letto più 2 a colpire, allora automaticamente l'ho sommato anche ai danni. Però è vero, non è detto. Cioè io quindi ho perso molta meno vita. Sì, forse il mio cavallo non sarebbe morto. Forse il tuo cavallo. No, il mio cavallo morto. Non sarebbe morto. Facci andare via e buona, sono rotto i coglioni. Se no scendo io e li ammazzo uno a uno. Eh sì, no, siamo messi così bene. No, ma muoio anche, chi mi frega, ci devo morire. Devo tirare i danni dell'alce. Guarda che scusa, sono 40. Quanti ne stanno tirando? 80 di asce. No, sono 15 questi. Sono 3 5 ce ne ha pochi, sicuramente non quanti. Ok, ho tirato l'altro. Quanti danni ha fatto? 17 danni? Gli hanno fatti 19. Muore, ovvio. Cioè, per forza, se hanno tutti un più 40 a colpire. Hanno più 2 a colpire. Sì, ma il comune non ha un di 4. Hanno le. Sono più, quella è la club. Il club. Loro hanno le asce Andax. Ok, ok. Combatteremo. Vabbè, facci trovare due animali di arce e andiamo via. Qual è il problema? Per tornarci li ammazziamo tutti, giusto? Qual è il problema? Sì, no, ci torniamo poi. Però. Ma qual è il problema? C'è un cavallo. Ah no, è morto. Arci diventa un cavallo e carica voi due. Garrosh. tocca a te. E io continuo a scappare. Ok, sei fuori dalla città. Arci diventa un cavallo e carica voi due. Batk e Vard. Arci diventa un orso, ci carica, andiamo via. Ok. Ah, non so, può essere che ti tiri giù anche lui. Aumenti. No, vabbè, sicuro, a me è sicuro. Facciamo così anche perché il cavallo non sarebbe morto. Quindi. Va bene. Uscite correndo sull'orso. Ah, a me se mi colpiscono di nuovo o mi ammazzano? Per forza. Bene. Non so c'è anche lì, spesso noi orso andiamo via con l'orso. Cioè va bene, cavalcate fuori dalla città e immagino vi dirigete al rendezvous con... Sì, magari facciamo qualcosa da qualche parte. Al rendezvous. Lungo. Cosa fate? Infatti andiamo all'incrocio dove dovevamo trovarci e aspettiamo come erano gli accordi. Aspettare cosa. Ah, io vi dico che c'è una cosa interessante nel cimitero dell'abbazia da portarci Kevin. Il cimitero è questo. Sì. Cosa c'era? Scusa? C'è una tomba. Il cimitero. C'è una tomba. C'è una tomba dedicata alla sorella. Ah. No, ma questo lo sapevamo già in realtà. No, lo sapevo io perché mi sono fatto fare il giro. Voi cioè lo sapete in quanto. Voi non gliene fregavo un cazzo. No, loro non c'erano proprio. Loro non gliene fregavo un cazzo. No, voi lo sapevate nel senso che visto. Tu, Vez e tu, Shio, in teoria l'avete sentito perché eravamo allo stesso tavolo. Era quel momento in cui, tra virgolette, stavi discutendo con noi perché tu ti eri nascosto con Esmeralda, non stavamo visto, cercando. Era quel momento lì. Posto. E lui, sì, lui è girato. Sì, lui invece si è fatto fare il tour. Sì, no, pensavo l'avessimo vista tutte. Mm. Ah, bene. Ok, beh, magari dillo a Casimir quando lo vedi. Chi è Casimir? Quello con le orecchie a punta, dai. No, non ce le ha. Non conosco non nessuno con le orecchie a punta. Ho sbagliato. Pensavo fosse una battuta geniale, invece era una grinta. Che ironia. È vero, come potevo sapere che è un elfo alla fine? È vero, come potevo sapere che è un elfo? Perché è frocio. Che ce l'ha detto. Allineamenti, dai. Ah, non l'avrei mai detto da... non l'avrei mai detto. Vabbè, ok. Non c'è Casimir, vero? In questo momento presente. Vabbè, una volta arrivati al bivio, magari ci mettiamo un disparte e... Bivacchiamo, riposiamo. Sì, cioè, se non sono già gli altri... un riposo breve possiamo fare. Abbiamo anche fatto un riposo breve. No, quindi... di noi, faccio fare un riposo lungo. Se non sono già lì gli altri. Cosa fate? Gli altri non sono ancora. Quindi, vabbè, intanto ci mettiamo a riposare, vediamo quante ore direi passano. Che ci riposiamo finché non arrivano gli altri, finché non succede qualcosa. Quindi passa un'ora, riposo breve. Decidete di usare gli armi del riposo. No, breve. Perché se dici che passano tante ore diventa lungo. Sai quante ore passano? Arrivi lì e inizia a riposarti. Vabbè, dopo io non sai quante ore riesci a riposare. Quante puoi usarli tutti o solo uno? Usare quante ne vuoi. E ne recuperi la metà del massimale ad ogni riposo lungo. Tu sei di settimo, no? Hai sette dadi vita. Posso tirarli tutti? Tu puoi tirarli tutti. Ad ogni riposo lungo ne recuperi la metà. Se li uso tutti. Sì. Indipendentemente da quanti ne usi. 14, 17. Questo non è mio. 17, 20, 20. Un di 8? Blu, come questo. Blu. Ah. Ecco dove è. Quindi quanti... Cioè fino a 7 recuperiamo quelli che erano. Tu puoi cominciare a tirarli, vedere più quanto fare. Più la costituzione ad ogni dado. Poi ad ogni riposo lungo tu recuperi la metà del tuo massimo. Quindi 3 in questo quindi 3. Caso. Quindi se ne uso 3 col prossimo riposo lungo li recupero. Posso decidere man mano che tiro. Dio, a quanto sono adesso? A 5. Con quelli temporanei. Ah vabbè, Arci in realtà ha delle cure che può fare. Quelli prima. Temporanei dell'arma con riposo si annullano. Sono andati via. Sì, vanno via con riposo. Quindi, Arci può fare delle cure prima. Beh, io comunque ormai tiro 3 dadi. Ok, no, li tiro anche 3 dadi, però tieni conto che mi spariscono i 9 temporanei. E beh, quelli sono in totale a parte, non influisce. Quelli sono già andati via. Vai, tiro i miei. Ah, li hai già scalati subito? Ah, ok, ho capito. Quindi sono a 5 normale. Beh, voi li tirate tutti voi? 3. No, ne ho tirati 3. Così che il prossimo riposo li recupero. No, perché poi vediamo. Cioè, magari ne tiro un quarto, però Arce ha delle cure. E diciamo che prima di riposare Arce farà queste cure. Ma perché se vai sotto la metà, le recuperi tutti dopo, no? Capito? Con un riposo lungo ne recuperi metà. Quindi se hai 7 dadi vita ne recuperi 3 e mezzo. Non so, 3 o 4. Io ho 29. So, 3. Recupero. Oltre dadi. Tu 29. Beh, però se li uso tutti cosa cambia? Niente, che faccio un riposo lungo. Beh, è inutile che li usi tutti. Rispetto a? Ne recuperi 3 col prossimo riposo lungo di dadi. Quindi al prossimo, dopo il prossimo riposo lungo avrai a disposizione solo 3 dadi. Noi adesso facciamo un riposo lungo. Siamo domani adesso facciamo un riposo breve. Poi faremo un riposo lungo. Il giorno dopo tu fai dei combattimenti. Ti servono degli altri dadi in un riposo breve. Ne avrai a disposizione solo 3. Perché ogni riposo lungo ne recuperi 3. Ah, ok. Sì, quindi io preferisco usarne solo 3. Capito. Così se domani mi servono di nuovo ce li ho. Sì, allora anch'io. Dai, ne uso 3. 5, 9, 11. Più 6. 11, 17. Ho sommato ad ognuno la costituzione. Sì. Quanto sono io? 21, però aspetta, perché ti dicevo. Allora, io ne uso un altro, un quarto, perché tanto. Sì, è vero, comunque, qua è esatto, 4 almeno ne posso usare. E vado tu li puoi usare anche tutti, però hai capito, era perché altri 10. Se domani ti servono. 10 punti e vado a 61 su 69. Tu vai a 31, però aspettate un secondo. Pure tiro un'altra. Cazzo. Perché Arci ha ancora ferite di secondo livello. E 3 di primo. Quindi. Io sono a 34. Prima di fare sto cazzo di riposo. Ok. In teoria abbiamo già fatto. Cura. Quello di secondo livello lo usa su. Chi è che è meno? Lo usa su. Ma guarda, questo l'aveva finito, sai? No, uno non c'era ancora. Sì. 8, 11 in più per il paladino. Sì. Sono 32, 31, 42. Poi ne ha ancora 3 di primo livello, ne usa 2 su il barbaro. E sono 11. 11 più 16 più 17. Quindi 34, vai da 50? Vai a 51. 51, vabbè, basta. Sto a posto così. Vabbè, ne ho un altro, ultimo cura ferita, lo su Vez. Uno. 1 più 3. 4. Vai, e sei a 46. Dai, aggiungo un quarto dado, allora poi basta. E aggiungo 9. Quindi sei a 60. Non ci leggo più un cazzo. E prendere un foglio nuovo. Dopo lo farò. Ok, quindi io sono 61 su 69. Ma volete accendere la luce? Come tu sei a 46 su 68. Vuoi accendere la luce? Comincia a essere buio lì dal vostro. E tu sei a 60 su 85. No, va bene. Arci possiamo uccidere i popolani, tranquillamente. No, in realtà potremmo andare dietro a cercare. Oppure potremmo andare nascosti e goderci lo spettacolo dei mongrel che uccidono i popolani. No, dai, siamo a posto, continuiamo a riposare, vediamo prima o poi arriveranno. Ma perché loro dovevano, scusate, come erano andati a controllare la torre? Ah, la torre, assediate, è vero, non è vero, vero, adesso tornate in mente. Ok. Sì, io magari prima di proseguire facciamo comunque un riposo lungo. Allora, cosa dovete fare? Aspettiamo. Aspettiamo che arrivi. No, dico nella vita. Direi che se vezza alle 7 di Non so che tempi è. Io non so. In realtà. Aspetta. Voi avete orari? No. Tu sei l'unico che ha orari, sì. Beh, possiamo andare avanti ancora un po' comunque. Ok. Quindi. Peccato, non sono riuscito a fare tutto il casino che avrei voluto fare, però qualcosa riesco sempre a tirarla fuori. Mi piace questa persona. No, il totem è pareggiato magari adesso in questo istante. quindi vabbè, ora vediamo un po'. Check. Qui è buona, non è niente. Gol. Serio? Paperissima. Cosa voleva cercare? Per fare fuori gioco prima? No, forse qualcuno. Meno che non ci sia il fallo di mano. Infatti. Sì. Forse l'unico sì. L'unico dubbio era quello. Boh. No, è spalle. Boh. Non lo so. Dai, spalle, spalle. Io? Dai, questo è spalle. Ah, lì lì, È qui. È lì lì. Se non c'è un'inquadratura da davanti, il dubbio rimane. Da dietro sembrava. Se non c'è un'inquadratura c'è da davanti. C'è onestamente una mega papera del portiere. No, è andato gol. 6-10, come 6-10? Ma lì dal copre, forse devo andare adesso. Forse devo andare. Ok. Datemi un secondo che da cosa cazzo mi scrivo. Chi è lo zio? Ti mandano un vocale. Sì, dal bar. Sì. Sì, onda. Niente. Fine. Ok. C'era un altro 10 minuti. Cioè, se avevi qualcosa da introdurre, possiamo introdurlo. Ah, niente. Mi servivano dei vostri tiri. Tirato un di 20 la peste. Dieci. Sono abituato a tirare un solo di 20 ormai. 3. È maledetto, fagli ritirare due. No, basta uno. Tanto meno di 3 è molto difficile. Ragazzi, tiro un di 20. Scusate. Ok. Semplicemente dopo un'ora e mezza che vi riposate, vedete che ritorna, cioè vi rincontrate con Rectavio e Rectavio e Smeralda e Kevin Casimir. Kevin. Ciao Kevin. C'era qualcun altro, no? Allora. No. Rectavio, non Smeralda, Kevin, sì, basta. Va bene, al massimo la prossima volta ricominceremo. No, dico al massimo c'era Salla, non mi ricordo. Ah, è vero, Salla. Forse era quello. È plausibile. Byron, ormai no, mi ero dimenticato della sua presenza. Forse sappiamo dov'è Byron, non credo fosse quello. No, Salla marsigliese. Ma sai che visto da dietro la terra e fallo di mano, perché è proprio così. Quindi gli è andato buono, però. Sì, però guarda il movimento, il braccio che fa, oh, proprio va, però lui va per allungare la spalla. Sì, cioè. Da dietro, cioè da lì sembra buono, da dietro sembra. Nel senso, lo becca da qualche parte qua. Secondo me è buono, però. Sarebbe molto al limite. Cioè, magari lo becca qui, però. Non cioè. È buono. Perché adesso sta smontando le sue tre. È venuta giù. Vesti che fa cose. Mentre guardiamo la rissa di Tottenham Watford, direi di cominciare i saluti. Sì. E dietro ai microfoni. Bene. Dietro ai microfoni. Avete visto il 27esimo episodio della maledizione di Kat. Royal Rumble. Abbiamo più o meno accettato quanti più mongrel possibile. Oh, raga, quando manco io fate sempre solo combattimenti. E siamo stati, in effetti, e siamo stati massacrati da dei popolari. E anche questo è vero. Beh, stanno più 20 al colpire, un più 50 ai danni, come qualunque popolare. Ma cazzo, mi sembra un po' strano. Ma non vuol dire. Quindi hanno 40 di forza. Non vuol dire. Non vuol dire. Magari 50, che ne sai? Ma cosa? Come? Vabbè. Vi diamo appuntamento con le prossime sessioni di noi Tycoons and Dragons. Andate sul nostro blog che si è leggermente aggiornato e dopo soltanto un anno di ritardo siamo arrivati in pari con Coloni. la promessa di andare prima o poi, speriamo un po' prima magari, in pari anche con la maledizione di Kata, che di fatto è iniziata più o meno un anno fa con gli special di Halloween. Special di Halloween, è vero. Esatto, infatti. È solo un anno, allora. Infatti tra poco... Oh, grigliata al botteghino special di Halloween di Davide. Ah, questo è il 27esimo di della maledizione di Kata. Con i due di Halloween sono 29, che sono uguali a Coloni, però tu poi vai al conteggio col mazzetto. Lo diciamo piano, ma potrebbe esserci in anteprima. Però Vez è un giovedì, tu ti alleni. Ma cosa? Vez non 31. Si allenerà giovedì 31. Sì, mi sa. No, dai, Vez. Vez ha saltato 40 allenamenti. Ma che ora? No, finisce tardi. Che ora finisce? Possibile. Se mi alleno... Ma scusa, è un giorno feriale quello? Sì. No, è un prefestivo. No, si riesce. Era figo fare lo special di Halloween, però vicino. No, cioè io sicuramente non riesco il 31. Ma che ora finisci? È festa l'1 o festa l'2? Festa l'1, mi sembra massimo di fare. Però è venerdì, se no facciamo l'1. L'1 io ci posso essere. Quando volete. Come volete. Se fare grigliata a pranzo allora. Il 31 se ho allenamento sicuramente non ci sono. Beh dai, ci aggiorniamo. Comunque ci aggiorneremo. Grazie per averci visto. Contattato, scritto, non è vero, non ci guarda. Se avesse fatto, vi ringrazieremmo, per cui faccio veramente. E ciao a tutti, allora. Termina uno. Cazzo, missing audio. In teoria. In teoria qua dovrebbe aver. Dopo ci guardo.